A tempo di sport. Oh, tra l'altro, per la cronaca, se non ho visto male, è stato di Cassano anche l'assist per Ibrahimovic. È andato a chiudere Cassano un triangolo con Ibra per il gol del 4-4. Se così fosse, insomma, per Cassano è entrato con il Milan in svantaggio 3-1. Anche qui vado a memoria. Per Cassano due assist in un pugno di minuti, e con quello che al 93esimo permette al Milan di fare questo 4-4 che medica i danni di una domenica che sembrava ancora più storta. Non sarebbe un gran brutto andare, no? Per quanto riguarda la voce Cassano assist in rapporto ai minuti fin qui giocati in rosso-nero. Ma andiamo con ordine per ricordare l'esito ancora parziale, perché questa sera si gioca a Napoli-Juventus, che è partita sorta di dentro fuori, un biglietto solo per chi vuole continuare a sperare di inseguire il Milan, quindi partita estremamente interessante per gli equilibri di alta classifica. Ebbene, questo pomeriggio abbiamo visto un sacco di cose dappertutto, salvo che su due campi, quelli, come ho detto prima, di Cesena, 0-0 Cesena-Genoa, e di Verona, 0-0 tra Chievo e Palermo, campi su cui tra l'altro non è successo veramente nulla o quasi. Sugli altri invece di tutto, con 4 vittorie in trasferta, una sola vittoria interna, cioè quella della Fiorentina con il Brescia, maturata in maniera che rocambolesca è dire poco, e poi quanto stavamo dicendo, no? Il Bologna che vince 2-0 a Bari, gol di Ekdal e Di Vaio, con la magia che sembra essersi un po' spenta, magia del Bari, la suggestione delle possibilità di rimonta baresi che sembrano essersi un po' spente, forse la notte stessa dell'Epifania, ma d'altra parte Ventura, che conosce bene la squadra, l'ambiente e le sue possibilità, aveva detto: se non arrivano altri rinforzi sarà veramente dura correre per la salvezza. Oggi è sembrato abbastanza evidente, perché il Bologna mi sembra non abbia fatto una gran fatica per vincere 2-0 con i gol di Ekdal al 38esimo del primo tempo e, manco a dirlo, di Marco Di Vaio 24esimo della ripresa. Allora, la partita di Catania, primo tempo inutile, inesistente, brutto, sotto ritmo da parte di tutte e due. Nella ripresa il Catania comincia a premere forte, c'è Maxi Lopez che ha due buoni palloni per portare in vantaggio il rosanero, Castellazzi che fa altrettante parate non semplici, poi segna Alejandro Gomez al 26esimo della ripresa, appunto, portando in vantaggio meritatamente fino a quel punto il Catania. E quindi ecco Esteban Cambiasso, doppietta per lui, 29esimo e 34esimo, di testa al primo, di piede su cross di Maicon il secondo, e l'Inter centra nell'era Leonardo, la seconda vittoria consecutiva, ancora più preziosa se si considera appunto lo strambo pareggio di San Siro. La Fiorentina stava perdendo 2-0 senza fare grosse pieghe, gol di Diamanti e Cordova nel primo tempo, dominato dal Brescia. Al 27esimo ha ripresa il gol di testa di Gilardino, che sembrava più che altro un fuoco nel buio viola. Invece Santana al 41esimo della ripresa, naturalmente, e gli Aic a 2 minuti dal termine hanno dato ai viola questa vittoria preziosissima. Aria di crisi, secondo me, per la Lazio, di fine del volo forse, a voler essere ancora più pessimisti. Perché la Lazio perde 2-1 in casa con il Lecce, che era andato in vantaggio al 39esimo del primo tempo con un'autorete di Muslera, l'unico caso di chiara autorete da parte del portiere, tiro di Cedà che picchia sul palo e quindi rimbalza sulla schiena di Muslera, che era già a terra, e Lecce in vantaggio. Il pareggio di Mauri, molto contestato dai leccesi, secondo me anche a ragione, perché mi sembrava in posizione irregolare Mauri per questo gol dell'1-1 al secondo della ripresa, e poi Grossmüller al 27esimo a dare la vittoria ai pugliesi. Ci vorrebbe un'ora a raccontarvi quanto è successo soltanto in Milan-Udinese. Udinese in vantaggio al 35esimo del primo tempo con Di Natale. Il pareggio del Milan al 46esimo, sempre del primo tempo, con Compato, e poi l'Udinese che va sul 3-1 con Sanchez e Di Natale, segna autorete di Benatia, poi il 3-3 di Pato, di nuovo l'Udinese in gol con Dennis al 44esimo, e al 48esimo Zlatan Ibrahimovic per il 4 pari. Sta per parlare Leonardo, già Maurizio da Bari, Andrea dalla provincia di Ancona in linea, 800 24 00 24. Il Cagliari, per completare il tabellino, vince 2-1 a Parma con doppietta di Acqua Fresca e gol di Giovinco nella ripresa. La Sampdoria batte 2-1 la Roma e Leonardo sta parlando con Sky. Impostare, trovare soluzioni in avanti, è vero che Catania ha fatto molto bene anche a livello tattico, erano messi molto bene in campo, sicuramente abbiamo fatto molta fatica a trovare la soluzione. Secondo tempo un po' diverso, ed è vero che il cambio ci ha dato vivacità in attacco, più soluzione, anche perché con due linee così equilibrate che gioca il Catania, tante volte è difficile trovare questi spazi. Sbagliavamo un po', però un'altra volta la dimostrazione di carattere e anche di coinvolgimento di quello che è una partita difficile così da parte di tutti è stata straordinaria, perché una rimonta dopo non aver giocato tanto bene, una rimonta così è veramente straordinaria. Stai guardando attentamente la classifica, al momento già di guardarla, cioè ci pensi proprio a questa rincorsa con il Milan, anche in virtù di quello che si diceva delle due partite che dovete recuperare? A un certo punto hai caricato anche la squadra con il risultato di San Siro. No, io credo che l'idea di essere dentro il gruppo che lotterà, senz'altro, c'è sempre stata. È vero che queste due partite ci danno ancora più sicurezza e più entusiasmo per andare avanti. Sappiamo che la maratona è lunga, sappiamo che guardi la classifica e comunque sono due partite in meno, che tu calcoli più 6 punti, ma comunque devi fare questi 6 punti, non sono fatti. Quindi è una classifica che tante volte diventa difficile anche leggerla. Per quello credo che noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, piano piano, ogni partita, come oggi, credo che c'è stato anche la difficoltà, ma anche uno spirito veramente che ci ha portato 3 punti fondamentali per andare avanti. Se fosse finita in pareggio, avrebbe fatto il suo Catania il risultato più giusto secondo te? Forse, credo che dipende, credo che comunque anche se noi non riuscivamo a costruire, non abbiamo subito tanto, abbiamo subito troppo poco. Poi secondo tempo un tiro da fuori, primo tempo un altro tiro da fuori, neanche noi abbiamo costruito tante occasioni nel primo tempo, però dopo che la verità è che abbiamo fatto un cambio cercando di alzare il baricentro della squadra, con Goran che è andato a posto di un centrocampista, che ci ha fatto decisamente alzare la squadra e metterla in attacco. E in quel momento abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo, allora un po' si è sbilanciato un po'. Dopo, fatto giocare così e con tanti uomini davanti, abbiamo trovato 2 gol. Ilaria. Così Leonardo, dunque, così Leonardo, che non so, sarebbe stato anche il caso di, ma magari glielo chiederanno, ha citato l'ingresso di Pandev nella ripresa. In questo momento a me Pandev sembra comunque uno dei più vivi atleticamente dell'Inter, almeno la sensazione l'altra sera con il Napoli è stata questa. È entrato nella ripresa, l'Inter ha un po' cambiato passo, complice anche ovviamente il gol subito. Classifica citata ed esaminata già da Leonardo, che dice attualmente Milan 40, Lazio 34, Napoli 33, Roma 32, Juventus e Palermo 31, Inter 29, Udinese 27, Sampdoria 26, Bologna 24, centro classifica gli emiliani. 23 punti per Cagliari, Fiorentina e Genoa. 22 troviamo una copia, Chievo, Parma, quindi Catania 21. In zona rossa Cesena 19, Lecce 18, Brescia 15, Bari 14. Ricordiamo che l'Inter ha 2 partite in meno, ricordiamo che Napoli e Juventus giocano questa sera, 1 partita in meno anche per Sampdoria e Genoa con il derby da recuperare, e Cesena e Fiorentina, che sono le 2 avversarie che l'Inter dovrà affrontare nei recuperi. Ci fermiamo per il traffico e poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Strade in diretta. 17:14 minuti, in corso i rientri dal ponte dell'Epifania sul tratto toscano dell'Autosole, si incontrano code a tratti tra Incise e Firenze Scandicci verso Bologna. Ci sono code anche sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare a partire da Torrenova. Sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti per traffico tra Pesaro e Rimini Sud verso Bologna. Trafficata anche la carreggiata verso Modena sulla 22 del Brennero, con code tra Carpi e l'innesto con la 1. Code per traffico intenso poi sul tratto urbano della 24 in direzione della capitale alla barriera di Roma Est. Infine le condizioni meteo: attenzione alla nebbia che riduce la visibilità in più punti sulla 14 Adriatica tra Romagna e Puglia, banchi di nebbia anche sulla 4 tra Desenzano e Montebello e sulla 22 del Brennero tra Mantova e Verona, deboli nevicate in atto invece sulla A5 Torino Osta tra Courmayeur e il Monte Bianco. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Maurizio da Bari, buonasera. Sì, buonasera signor Genta, premesso buonasera. Che il mio non si presenta come un intervento estremamente intelligente ma da tifoso. Ma perché? Ma non si butti giù. No, mi spiego, nel senso, da tifoso milanista timoroso in questo caso. Sì. Con sorriso dico che il mio intervento è stato bruciato da un traditore, che quindi tale si conferma, Leonardo, che sì. In pratica va a definire quella che temo sarà la rivalità di qui alla fine del campionato, ovvero fra gli stevismi della Roma e realtà incompiute di Napoli, Juventus, eccetera. Temo proprio che alla fine l'Inter si farà sotto e ho paura di... Ma non è divertente in fondo, Maurizio. Metto un attimo da parte gli occhiali del tifoso. Non è divertente, ecco, tutto ciò. Non ci riesci, la capisco. No, la capisco. Anche suoi, suoi colleghi oggi a Curva Rossonera, Leonardo, uomo di... Appunto, sì, aveva ragione quel bambino che è stato cliccato morto su internet. No, purtroppo non è divertente, naturalmente, lo dico col sorriso, proprio in virtù del, del fatto che ora in serra alla, ai cugini c'è mister 30 denari, che però, Maurizio, mi perdono, mister 30 denari, mi sembra che sia stato cacciato via dal, dal Milan, no? Mi pare che non si sia lasciati poi in buoni rapporti. Se, se uno vuol fare l'allenatore, alla fine va bene, lo chiama una grande squadra, come ha detto l'altro giorno, è una sfida molto affascinante. Sì, io capisco, io capisco. Sì, prova a capire. Perdoneranno il mio accento non perfetto, ma Leonardo per noi è la piazza core. Quindi è davvero, davvero un peccato. Ma adesso ripeto, a parte gli scherzi, quello che dispiace è che ne dicesse cambiasse poi in diretta una trasmissione sportiva in seconda serata, proprio i suoi gol, stanno dimostrando che non c'era quel feeling forse col tecnico precedente. E che ora chissà che cosa si è svegliato, e questo dove all'Inter lei dice, esatto, ma è evidente, e questo ripeto da cugino mi fa un po' paura. E certo, io capisco, era contento se andavano male, era contento se vedeva quei giocatori con le facce spente quali avevano con Benitez, ma è evidente che non c'è, ma chiaro, no questo è sacrosanto, fa parte del gioco ed è anche giusto, le dico, Maurizio, intanto è stato un piacere parlare con lei, altro che... È stato un intervento molto gradevole, sebbene da tifoso, ma come è giusto che sia, perché qui vogliamo gente che parla con la pancia, perché col cervello a discutere sul caso ci annoiamo da morire. Va detto che tutto questo mi sembra evidente, no? Dicevamo ieri, se fatta l'analisi logica, grammaticale, lessicale della parola empatia di questi giocatori, abbracci, carezze, coccole, baci, sorrisi, ammiccamenti, eccetera, è chiaro che questo prima non c'era e adesso c'è, è chiaro che Benitez non è mai entrato nel modo corretto in quello spogliatoio, nella testa dei giocatori e così via. Leonardo invece sa quali sono, non sarà un mostro di allenatore ancora, perché questo è evidente, è un allenatore alle prime armi, però è un uomo di calcio ed è una persona estremamente sensibile e intelligente, sapeva quali corde andare a toccare, sapeva quali erano i personaggi giusti da portare immediatamente dalla sua parte, insomma è entrato con grande sensibilità e intelligenza, lo ripeto, in quello spogliatoio, e 6 punti in 2 partite, compresa la rimonta di oggi a Catania, ne sono la testimonianza. Donadoni, intanto Andrea D'Ancona era in linea, proviamo a recuperarlo, è 800 24 00 24, è il numero verde, sta parlando Donadoni che ha vinto a Parma e che sta andando molto bene con il suo Cagliari. Dopo il secondo gol l'ho vista esultare in maniera grintosa, quasi liberatoria, quanto è contento per Acqua Fresca, e poi uscendo Acqua Fresca ha detto: sono io il vero acquisto di gennaio. No, beh, mi fa piacere per lui, sono contento per lui, perché il gol è quello che può scacciare certe difficoltà, certi timori eccessivi che lui forse si è addossato pur non essendoci la necessità di farlo, per cui ero soprattutto contento per lui, al di là del fatto che la squadra ha trovato 2 gol importanti e quindi andare in vantaggio di 2-0 a Parma non era facile. Quindi c'è stata una risposta positiva da parte di tutti, però questo dobbiamo prenderlo come esempio per il futuro, perché certe partite manchiamo un po' di quello che invece oggi abbiamo dimostrato, è nelle nostre corde, nelle nostre possibilità, dobbiamo farlo con più continuità. Questa era Donadoni. Andrea invece, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Sì, io volevo seguire le orme dell'ascoltatore di Bari, parlare da tifoso però dell'altra sponda di Milano. Ma faccia pure. Faccio, nel senso che a me mi ha un tantino rincuorato quando lei ha detto che il pareggio di Ibrahimovic era immeritato. Sì. Io, a dire il vero, ho visto gli ultimi 10 minuti della partita e sinceramente ho visto un fallo di Ibrahimovic su un difensore dell'Udinese proprio nell'azione del gol, del pareggio, del 4 pari. Sì. Poi, siccome nessuno né telecronisti non, io, Andrea, non mi ha fatto parola, guardi, poi, invoco da questo punto di vista, guardi, io mi posso fidare di lei, poi lo rivedrò, però invoco il quinto emendamento, la facoltà di non rispondere, perché veramente non sono in condizione. Sì, parlando con voi, guardando il monitor, tutti i gol, non sono in condizione di dire se è successo qualcosa, lo giuro. Sì, poi però ho visto dei giocatori dell'Udinese a fine partita che mimavano il gesto di Ibrahimovic, che si era arrampicato sulle spalle del difensore a fine partita. Detto questo, non vorrei che il pareggio del Milan passasse per una rimonta, diciamo. Beh, rimonta trionfo, rimonta di fatto lo è stata, trionfo tutt'altro, perché quando becchi 4 gol in casa, pur da una squadra in grandi condizioni come l'Udinese, insomma, devi quantomeno parlarci sopra, anche perché secondo me, io continuo a pensare che nel Milan di giocatori insostituibili non ci sia solo Ibrahimovic ma anche Nesta, e una volta ti manca Nesta a Cagliari magari la medichi. Oggi mancava Nesta, ne hai presi contro clienti difficili come Di Natale, Dennis e gli altri, e l'hai pagata, perché insomma sia quel gol di Sanchez in anticipo di testa su Bonera, sia quell'uno contro uno in cui lo stesso Bonera è stato bevuto da Di Natale, insomma è una difesa ed è un assetto che non può fare a meno, io credo, di un giocatore come Alessandro Nesta, che sappiamo è a rischio, lo sappiamo benissimo perché la sua storia anche recente lo dimostra. Chissà cosa ne pensa Guido Link, che sta parlando con Sky. È nata quasi sempre noi, e purtroppo però siamo riusciti a portare a casa il risultato. C'è stato forse decisivo col senno di poi, o comunque che ha nuociuto molto a noi, è stato l'autorete che ci ha messo il Milan nella condizione di provarci ancora, perché secondo me la partita lì era quasi finita, però è andata così, pazienza. Lei ha detto che è arrabbiato, l'autorete è la cosa che l'ha fatta arrabbiare di più, oppure c'è qualcos'altro? No, mi sono arrabbiato anche molto e ho protestato anche decisamente, come tutti i nostri giocatori, sul gol del 4-4, perché ci è sembrato che Ibra avesse fatto fallo, ma se l'arbitro ha deciso che non era fallo, va bene così. Alla fine è finita la protesta, accettiamo il risultato, il verdetto, il giudizio, e andiamo avanti, e tenendoci stretta questa bella prestazione e con un po' di rabbia per non aver portato a casa quello che stavamo per prendere. Intanto stiamo vedendo le immagini contestate. Sto rivedendo anch'io le immagini per la prima volta da una posizione decente. C'è un lancio di Bonera esattamente dal cerchio di centrocampo. Ibrahimovic che salta dritto, poi c'è questo contatto con un difensore dell'Udinese. Ibrahimovic dà la palla di testa indietro a Cassano, che gliela restituisce, e quindi Ibra segna il gol. Discutibile, poteva anche fischiarlo. Non mi sembra un fallo clamoroso e colossale quello di Ibrahimovic, che insomma nel contatto vince con quasi tutti i difensori del mondo, no? Nel contatto fisico non mi è sembrato un fallo epocale, onestamente, quello di Ibra. Si poteva anche fischiare, questo sì, però non qualcosa di da pagnolata come era successo oggi a Catania. Nemmeno quei due episodi secondo me erano da tutto il cancan che è venuto fuori, ma comunque sono opinioni e gusti personali e opinabili, fatelo pure. 800 24 00 24, il numero verde. Saluto e ringrazio intanto Mirko Graziani, inviato della Gazzetta, nostro amico. Ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Senti, come valuti questo pareggio, questa partita stranissima, bizzarra, carnevalesca quasi? La giornata intera è stata un po' carnevalesca, però questa partita di San Siro veramente bizzarra. Ma guarda, io ho sentito il tuo ultimo commento e sono d'accordo con te. Il Milan non è solo Ibrahimovic dipendente, il Milan ha grossi problemi dietro nel momento in cui viene a mancare Nesta. E non tanto Thiago Silva, proprio Nesta. Certo. Quando manca Nesta lì salta tutto. Il Milan diventa una squadra dietro perforabilissima, addirittura in alcuni momenti una squadra da centro-basso classifica. Ecco. Prendono dei gol incredibili, assurdi, e per il momento rimediano con un attacco stratosferico che non è solo Ibrahimovic. Io penso alla media gol di Pato, che è impressionante, non gioca quasi mai per infortunio, ma quando gioca segna sempre. Sì. Quindi i problemi del Milan, grossi problemi, sono dietro, e mi riferisco a tutto il reparto, dalle fasce alla zona centrale. Ovvio, poi se c'è un giocatore che resta mostruoso pur con tutti i suoi problemi fisici come Nesta, che è in grado, i grandi campioni sono quelli che migliorano il rendimento dei compagni di reparto, dei compagni di squadra, esatto, in generale. Esatto. e questo fa Nesta. Hai ragione nel dire che non è tanto l'assenza di Thiago Silva, che pure è un grande giocatore, ma non è ancora un giocatore di quel livello. Quando manca Nesta, l'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto mille volte, quindi stiamo un po' scoprendo l'acqua calda, e Nesta rimane comunque un giocatore estremamente a rischio. No, per il problema, sai, che per noi, se noi scopriamo l'acqua calda, hai ragione, ma perché il Milan non scopre l'acqua calda da anni? E perché la cosa incredibile è questa, è che il Milan non scopre l'acqua calda da anni e continua a rimanere scoperta dietro, in maniera incredibile. Questa è carina, senti, te la giro via SMS, il Milan vincerà per questioni politiche. Questa è, guarda che il mondo è bello perché è vario. No, volevo dirti invece dell'Inter, di questa Inter, baci, abbracci, peace and love, nuova stagione innescata da Leonardo, cosa dici? Durerà nel tempo? Non lo so, guarda, per il momento vedo ancora una squadra che è fisicamente molto indietro rispetto alle altre, ha un passo diverso anche col Napoli nel primo tempo, aveva sofferto tantissimo, se Maggio mette dentro il gol del 2-1 quella partita non so come finisce, però ecco, sta giocando con grande testa e grande intelligenza, quindi abbassa proprio il ritmo. Nel primo tempo l'Inter ha volutamente giocato a ritmo bassissimo, forse conscia anche delle sue potenzialità in questo momento. Quando è stato il momento di accelerare dopo il gol subito, diciamo che ha fatto quei 20 minuti da grandissima squadra, un po' come il secondo tempo con il Napoli, però in questo momento la vedo ancora un po' indietro fisicamente. Molti giocatori devono ancora crescere, certo sta crescendo Maicon, sta crescendo Cambiasso, e nel momento in cui dovesse crescere anche Milito, allora poi sono guai. Se poi quando non sei in forma vinci e guadagni punti, e allora tutte queste cose potrebbero far rientrare molto velocemente l'Inter nel discorso. No, ma guarda, io alla fine del primo tempo mi ero fatto questo appunto, lo leggo così scritto male, anche lessicalmente: Inter sotto ritmo oggi, già con il Napoli non brillantissima. È chiaro che le gambe non permettono due partite in tre giorni. Non ci siamo parlati. Non ci siamo parlati. Per chiudere, la Juventus con l'attacco settantenne che gioca a Napoli la partita decisiva, perché è la partita decisiva della stagione intera per la Juventus, sembra quasi una sorta di partita di playoff, no? Chi vince continua a inseguire, anche se Napoli non credo abbia le potenzialità per stare lì fino alla fine, chi perde salta giù dal treno. Guarda, hai perfettamente ragione, per la Juve è una gara decisiva in molti sensi, a livello di classifica, a livello di morale e a livello anche di mercato, perché una vittoria a Napoli consentirebbe alla Juve di muoversi con un po' più di serenità in questi giorni sul mercato, senza proprio avere la fretta che poi magari ti porta anche a sbagliare il colpo. Per quanto riguarda l'attacco settantenne, in una partita quel tipo di attacco settantenne può fare la differenza. È chiaro che alla lunga la Juve deve andare a pescare qualcos'altro, e anche velocemente. Sì, magari non al parco. No, non al parco, bravo. Io dico che sulle panchine del parco. Cioè, ci sono i segnali secondo i quali la Juve, insomma, sarebbe pronta a investire davanti a un vero colpo. Ecco, speriamo di sì. E speriamo che questo colpo sia in effetti. Sai, vinci oggi, torni a crederci, se c'è la possibilità di fare il colpo che ti cambia la vita, allora lo fai. Perdi oggi, il distacco diventa tanto, subentra un po' di depressione, dici ma aspettiamo di vedere cosa succede l'anno prossimo. Probabilmente oggi è una partita chiave per un miliardo di motivi, questi compresi. Mirko, ti ringrazio, ti abbraccio, grazie. Grazie a voi, un abbraccio, ciao. Grazie a Mirko Graziano. Livio da Cuneo già in linea, molti ascoltatori che si sono prenotati, 800 24 00 24 è il numero verde. Io vedo sugli schermi di Sky Massimiliano Allegri sorridente, cioè questo siparietto con De Canio che ha i suoi buoni, splendidi motivi per essere sorridente dopo aver vinto 2-1 sul campo della Lazio. I sorrisi di Allegri invece li lasciamo raccontare a lui eventualmente. Alessandro Alciato. Usciamo da questa parentesi da libro cuore con De Canio, parliamo di quello che è successo qui, di questo 4-4. Guidolin ci ha detto di essere arrabbiato, io non ho capito invece se voi siete arrabbiati, felici, sollevati, perché gli umori sono cambiati tantissimo nel giro di pochi minuti. Ma è stata una partita come durante il campionato ogni tanto capitano. E sapevamo che l'Udinese contropiede, soprattutto come organizzazione di squadra, ci poteva creare delle difficoltà. Noi non abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto anche perché l'Udinese ha fatto una buona partita. Il secondo tempo abbiamo iniziato bene, però abbiamo preso il secondo e il terzo gol in modo un po' troppo facile, e dopo 3-1 la squadra ha continuato a giocare e ci ha creduto. E poi, siccome era una partita molto tranquilla, abbiamo pensato anche di prendere il quarto gol, poi cercare di recuperarlo, e alla fine abbiamo avuto anche la mezza occasione con Abate per addirittura vincerla, però credo che alla fine il pareggio sia il risultato giusto. una squadra come il Milan, che è prima in classifica, che vuole dichiaratamente vincere lo scudetto, si può permettere tanti errori come ne ha fatti oggi? Speriamo di averli fatti tutti oggi. Dispiace perché fino ad oggi eravamo la migliore difesa con 13 gol al passivo. Oggi li abbiamo presi qua tutti insieme. Speriamo che siano gli ultimi. Magari gli ultimi non saranno, però insomma, una partita così difficilmente con questi errori la rifaremo. L'ultima domanda per quanto mi riguarda: avete finito con 4 attaccanti di fatto da quando è entrato Cassano. Può essere una formula per il futuro questa? O era una formula dettata solo dal momento di difficoltà e di emergenza? No, siamo messi col doppio mediano, con due mediani bloccati, Strass e Gattuso, e abbiamo dato libertà ai 4 attaccanti, anche perché bisognava cercare di recuperare la partita e andare a prendere l'Udinese nella loro metà campo. I ragazzi l'hanno fatta, l'Udinese erano un po' stanchi e noi abbiamo avuto diverse occasioni, la sensazione era quella di poterla recuperare, siamo stati bravi e anche fortunati, quindi credo che è un risultato importante per noi, perché quando trovi questi risultati vuol dire che il gruppo è a forza. A livello psicologico è come se fosse una vittoria. Avete dato la libertà agli attaccanti, avete fatto venire degli esordienti. Questa era Massimiliano Allegri. Ci sono invece tifosi imbestialiti, ma se non sarebbero tifosi, come Angelo, che ci invita ad andare a lavorare dicendo che in Italia è tutto pilotato, perché il gol del pareggio del Milan sarebbe stato annullato per quel fallo di Ibrahimovic. Ripeto, il mondo è bello perché vale, ognuno la vede come vuole, ma soprattutto se fossi convinto che è tutto pilotato, guarderei dell'altro, no? Perché non, se so che è tutto pilotato, vado al cinema, non guardo il calcio. Mi tengo invece, preferisco tenermi l'illusione che gli errori ci possano essere e che non sono ancora convinto che quello sia stato un errore. Un fallo c'era, ma non era così vistoso, così come mi è sembrata assolutamente eccessiva e assurda la così grande e forte protesta dei catanesi dopo gli episodi di Roma. Ci fermiamo, poi Livio da Cuneo, molti altri, 800 24 00 24, numero verde. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La settimana si apre col passaggio di una debole perturbazione atlantica che porterà alcune piogge sparse su Lombardia orientale, Levante Ligure, regioni di nord-est e Toscana, nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 1000-1400 metri, al mattino residue piogge anche al nord-ovest, nuvolosità variabile nel resto del centro e Sardegna, sereno poco nuvoloso al sud, dove tra l'altro il clima resterà molto mite con punte prossime a 20 gradi, un lieve rialzo termico è atteso anche al nord-ovest. Per il meteo è tutto, altri dettagli su meteo.it. Vicenza Oro First è il primo appuntamento internazionale dedicato al mondo dei preziosi. A Vicenza dal 15 al 20 gennaio il meglio della produzione di gioielli, argenti, pietre preziose e orologi. E in contemporanea T-Gold, il salone internazionale dedicato al mondo della tecnologia applicata alla lavorazione dei metalli preziosi. Vicenzafiera.it, solo per operatori. A tempo di sport. No, io vi dico subito che mi rifiuto di star qui a sbriciolare le partite in mille episodi, perché è un gioco che mi fa schifo. Ve la dico così non ci mettiamo neanche, perché se cominciamo a dire che quello di Ibrahimovic era fallo, però l'altro ascoltatore scrive non era fallo ma piuttosto di Natale sull'1-0, era un metro in fuorigioco e c'era anche un fallo su Pato alla ripartenza del quarto gol dell'Udinese. No, io non ci sto, questo giochino se volete lo fate voi. Livio da Cuneo, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti dottor Gente per la trasmissione che è riconciliata con il calcio. Condivido anch'io, evitiamo di spezzettare in tanti. No, io vedo, guardi, a me piace leggere il flu della partita, no? Oggi Milan-Udinese si possono dire un sacco di cose, ad esempio che il Milan ha beccato 4 gol, questo è un segnale che l'assenza di Nesta si può pagare, che l'Udinese meritava di vincere, certamente non meritava di perdere. si possono fare un sacco di ragionamenti, ma se cominciamo a sbriciolarla sul di Natale in fuorigioco, Ibrahimovic che va a fare, non ci siamo, perdiamo di vista la partita e io non mi diverto, quindi dato che il microfono lo accendo, lo spengo, io faccio così, dica. No, condivido pienamente, ma io invece volevo dire due parole su Leonardo. Premetto, sono un tifoso milanista da lunga data, sì. E sento tutto questo mal parlare, diciamo così, per parafrasare, di Leonardo riguardo il suo ritorno, riguardo all'Inter, ma io voglio ricordare che Leonardo l'anno scorso è stato allenatore del Milan, una squadra, come poc'anzi lei ha citato, praticamente senza Nesta, senza Pato, con una squadra, diciamo come si suol dire, ha fatto le nozze con i fichi secchi, ha fatto comunque un ottimo campionato, è arrivato al terzo posto, ha consentito l'accesso in Champions League, che ora una squadra ben più dotata sta giocando, e Leonardo è stato ringraziato e a posto suo è arrivato un altro signor allenatore, che è il signor Allegri. Sì. Leonardo in questo momento era un allenatore capace. Ma quello che dico, se Leonardo vuole fare l'allenatore nella vita, non puoi dire di no all'Inter, semplicemente questo. Voglio dire, non è scappato dal Milan per andare all'Inter. Il Milan a un certo punto ha ringraziato, gli ha dato il buon servito, gli è stata data un'ottima occasione, perché ripeto, sono un tifoso milanista, ma ad oggi l'Inter è la squadra campione d'Italia, d'Europa e per quello che conta del mondo, ha avuto un'occasione irripetibile, perché non accettare la sfida? Assolutamente. Ed è stato immediatamente amato dai tifosi, dalla squadra, dall'ambiente, perché è persona capace, intelligente e capace di farsi anche apprezzare. Cadiamo un po' in quelle trappole se poi contestiamo Leonardo. Certo, l'istinto, diciamo il DNA del milanista, magari non fa tanto piacere vedere che sia allenatore dell'Inter, ma abbiamo rispetto dell'uomo. Leonardo prima di tutto è un gran signore, sì, ma l'uomo del professionista, no? Perché il concetto di professionista va bene quando ci fa comodo, non va bene quando sono tutte delle mignotte, perché cambiano maglia, bandiera, eccetera eccetera. Allora, se uno vuol fare professionista, Leonardo vuol fare l'allenatore, è stato mandato via dal Milan, questi sono i fatti, lo chiama l'Inter, la squadra campione del mondo, perché non ci deve andare? Non ho capito. Poi io posso capire il fastidio del tifoso milanista, perché ci sta, si ragiona anche col cuore, però non si può dire non me la dovevi fare, ma perché è un professionista. E allora va bene con Ibrahimovic, non va bene con Leonardo? Non funziona così. No, personalmente concludo, non voglio rubare altro tempo. Sono contento di rivedere Leonardo su una panchina perché lo merita. Sì, anch'io. No, ma soprattutto sono contento che sia tornato nel calcio, perché è un personaggio che mi piace molto, che dice cose intelligenti, ed è un personaggio di cui sentivo un po' la mancanza. Grazie. Livio, Mario, cosa ne pensa lei? Io mi schiero con gli ultimi ascoltatori che hanno... Con chi? Con Livio che ha parlato adesso? Prima. Sì, guardi, io adesso... ho un attimo, sono andato a vedere Leonardo quante squadre ha cambiato. Allora, lui è nato nel catino, diciamo, del Flamengo, poi è andato a San Paolo, poi è andato in Giappone, Kashima Antlers, poi ha fatto Valencia, Paris Saint-Germain. Non lo ritengo una bandiera del Milan, perché per me le bandiere sono poche ed è giusto che siano così, non è che ci possono essere una storia di società. Sì, è anche vero. È anche vero che però è stato lì. Se vuole. Sì, ma è anche vero che è stato lì 13 anni, possibile. Assolutamente. È anche vero che è stato lì per molto tempo, da allenatore e poi da dirigente. Però... assolutamente, ma non è né Maldini né Baresi, non scherziamo. Cioè, questi sono rossoneri fatti, finiti, nati e cresciuti, e questo è uno che è arrivato come tanti altri. Sicuramente più nel cuore dei tifosi milanisti di Kluivert, ma non di Baresi e Maldini, non scherziamo. Sulla partita di oggi, concludo velocemente, non è secondo me solamente il problema Nesta, è che secondo me il Milan ha come prime scelte in difesa dei giocatori che non sono presentabili ad altissimi livelli, tipo Abate, che tipo Antonini, che sono due baldi ragazzotti, ma non puoi andare a giocare con quelli titolari in Coppa dei Campioni. No, ma certo, quando hai davanti Bale. Però il discorso è che se gioca Nesta, anche gli altri possono fare la loro parte. Se non gioca Nesta, diventa tutto più difficile e i limiti sono tutti più evidenti di altri giocatori che non hanno evidentemente quel livello. Quindi torniamo a quel punto, no? Il vero fuoriclasse della difesa del Milan si chiama Alessandro Nesta. Quando manca il capo, quando manca il vero fuoriclasse, anche gli altri hanno diversi problemi in più, come abbiamo visto. Reia con Sky. Diciamo così, la mentalità e l'attenzione giusta. c'è stato anche un pizzico di presunzione, probabilmente lei ha detto noi non dobbiamo mai sentirci appagati, non dobbiamo mai sentirci grandi. Oggi la Lazio ha dato tutto troppo per scontato. Ma no, non è tanto quello, queste sono le partite pericolose, se tu non le affronti col piglio giusto è chiaro che puoi avere difficoltà come le abbiamo avuto noi, ed è un peccato perché abbiamo visto anche le altre stentano un po' e questa era un'opportunità che non dovevamo farcela scappare. È chiaro che poi queste sconfitte vanno un po' analizzate, il perché succede questo, anche dal punto di vista, come si dice, un po' della condizione, soprattutto del primo tempo, abbiamo visto certamente una squadra brillantissima. Studio. Questo è Direia, invece chiedo ad Alberto Cigalini, nostro corrispondente da Catania, quali impressioni mi manda sulla partita di oggi? Ma le impressioni sono che intanto l'Inter ha recuperato alcune delle caratteristiche che hanno fatto le sue fortune in passato, cioè la capacità di reazione, la personalità, la prontezza nel venire fuori da situazioni che oggettivamente sono complicate, come quella di oggi quando il Catania è passato in vantaggio, legittimamente bisogna dirlo, perché sì. La partita per un'ora ha visto primo tempo molto tattico, molto bloccato, nessuna occasione da rete per entrambe le squadre. Nella ripresa il Catania ha cambiato passo, ha attaccato più e meglio dell'Inter, ha creato diverse occasioni con Maxi Lopez, che in un periodo positivo di forma è riuscito a impegnare la difesa con Maxi Lopez e con Gomez, che non a caso è stato l'autore del gol sugli sviluppi di un'azione originata da uno spunto di Lopez in area. Dicevamo, un Inter che fino al gol sostanzialmente aveva fatto pochino, si era vista davvero in maniera limitata in avanti. Poi Leonardo ha sostituito Cibu con Pandev, ha cambiato modulo, ha provato un 4-2-3-1 e è stato premiato da un atteggiamento più offensivo, è stato premiato dal fatto che ha permesso a Cambiasso e Thiago Motta di avanzare di più arretrando Stankovic, che invece aveva giocato trequartista nel primo tempo. È stato premiato anche con la complicità di due disattenzioni difensive del Catania, che nel primo caso ha sbagliato i tempi del fuorigioco, nel secondo tempo ha lasciato Cambiasso libero di colpire di testa solo davanti ad Anduar. Cambiasso, che più che mai uomo immagine, chiamiamolo così, del ciclo Leonardo, tre reti in due partite, è così l'Inter. Sai, uomo immagine dell'Inter, perché Cambiasso è il leader occulto di questa squadra, e questo si vede in momenti come quello che l'Inter sta vivendo. Alberto, invece, dammi un'altra sensazione, che dalla televisione ovviamente non ho un'immagine soltanto parziale. La condizione fisica dell'Inter mi sembra ancora piuttosto approssimativa. Ho detto prima che Pandev, che tu citavi, mi sembra uno dei più brillanti. È chiaro che l'Inter aveva subito il gol e quindi serviva una reazione, ma Pandev ha cambiato qualcosa nell'Inter al di là dell'aspetto tattico? Ma diciamo che l'innesto di Pandev è stato positivo sia sul piano prettamente tattico, per l'appunto, perché comunque l'Inter aveva bisogno di osare, diciamo che è stato un cambio un po' dettato dalla necessità l'inerzia della partita, le circostanze che si erano create. Però sì, Pandev effettivamente ha mostrato di avere un discreto passo, cosa che non tutti hanno in questo momento. Milito, per dirne una, non è ancora il Milito che tutti conoscono, deve ancora trovare un certo tipo di brillantezza sotto porta, ma non è solo un discorso di finalizzazione della manovra, è un discorso probabilmente di rapidità anche di esecuzione e di meccanismi di squadra, considerando che il Catania nel primo tempo ha imbrigliato l'Inter in maniera abbastanza, come dire, efficace, sì. Facendo un pressing alto con gli interni di centrocampo, a turno Pesce e Ledesma salivano a prestare alto il portatore di palla e l'Inter non trovava né il tempo né lo spazio per la giocata di qualità. Ergo non riusciva a innescare le punte. Certo. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Cigalini da Catania. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo Mario da Verona e Luca da Salerno. 800 24 00 24 è il numero verde. Siamo qui a parlare con voi. Strade in diretta. Sono in corso i rientri dal lungo ponte dell'Epifania sul tratto toscano della 1, si incontrano code a tratti e rallentamenti tra Incisa e Firenze Scandicci verso Bologna. Ci sono code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare a partire da Torre Nova. Sulla 14 Adriatica si resta in coda a tratti per traffico verso Bologna tra Pesaro e Rimini Sud. Trafficata la carreggiata verso Modena sulla 22 del Brennero con code tra Carpi e l'innesto con l'Autosole. Ci sono code per traffico intenso anche alla barriera di Roma Est verso la capitale sul tratto urbano della 24. 24. Infine le condizioni meteo, attenzione alla nebbia che riduce la visibilità in più punti lungo la 14 Adriatica tra Romagna e Puglia. Banchi di nebbia riducono la visibilità anche sulla 4 tra Desenzano e Montebello e sulla 22 del Brennero tra Mantova e Verona. Deboli nevicate in atto invece sulla 5 Torino-Aosta tra Courmayeur e il Monte Bianco. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi con la strada in diretta tra mezz'ora. A tempo di sport. 800 24 00 24, come vi ho detto, numero verde, messaggi 349 238 6666. Segnava il Catania, la partita finiva 0-0, è probabile, per dare una risposta a Leglio che invia questo sms. Mario da Verona, buonasera. Sì, buonasera dottor Genta. Intanto insomma, sono simpatizzante milanista e sì, francamente quando sento gente di una certa età parlare in un certo modo del signor Leonardo, non lo so, francamente rimango sempre più allibito. In che senso? Ma io sarei felicissimo se Leonardo riuscisse a ripetere la stagione di Mourinho, perché finalmente una persona capace, intelligente e matura avrebbe quello. Quindi, che lei è milanista, ha detto? Sì, sì, sono milanista. Quindi quello striscione di oggi a Curva del Milan, Leonardo uomo di... Ma lo trovo di una idiozia allucinante, e forse d'altronde però rispecchia insomma la società attuale, quindi insomma non mi stupisce più di tanto, ecco. Però senta, io volevo fare un altro tipo di intervento, collegandomi a Cassano. Sì. Io ho letto i giornali dopo la partita a Cagliari, ho letto già aggettivi superlativi, eccezionali, cioè io trovo che è difficile fare il giornalista, quindi bisogna esaltare ogni cosa anche ovvia e scontata. Io penso che domani leggeremo le stesse robe, ma la notizia vera di oggi è che il Milan in casa ha preso, come ha detto lei, 4 pappine dall'Udinese, con tutto rispetto. Sì, sì. E quando sento parlare molti dirigenti di tripletta quest'anno per il Milan, mi viene da ridere, perché con tutto rispetto per Di Natale, ma immagino i difensori del Milan quando dovranno incrociare i vari Messi piuttosto che Rooney o compagnia, certo, bella. Ma certo Mario, ma insomma, abbiamo sempre detto, è un po' un'illusione ottica. Adesso l'Europa è ancora lontana, l'Europa del Milan a me insomma rimangono le immagini della partita a Madrid, in cui onestamente il Milan venne sbattuto fuori dal campo, altro momento, Milan non convincente come questo, quello che vogliamo, però secondo me il Milan non è una squadra d'alto livello europeo, adesso lo possiamo dire perché prima è inizio di gennaio. Poi quando cominciano le partite che contano in Champions League magari ce ne renderemo conto. Certamente è una squadra da campionato, certamente è una squadra da scudetto, squadra che ha le potenzialità per vincere lo scudetto, perché Ibrahimovic fa tutta la differenza del mondo, e se Nesta sta bene anche quella difesa finisce per tenere, se non per essere solidissima quantomeno per tenere. Però non inserisco personalmente il Milan nel gota del calcio europeo in questo momento. Cassano o non Cassano, Ronaldinho o non Ronaldinho, questo è il mio pensiero. Io farei un salto ad un campo su cui rarità, su cui oggi non si è segnato, cioè a Cesena, dove c'è Emilio Buttero, che forse anche con un ospite. Buonasera Emilio. Sì, buonasera Carlo, sono infatti con il capitano del Genoa Marco Rossi, che ringrazio intanto per la sua disponibilità. Allora Marco, oggi è finita 0-0, una partita non spettacolare, comunque il Genoa chiude il girone d'andata a 23 punti. Che bilancio ti senti di fare dopo questa prima parte di campionato per quanto riguarda la tua squadra? Ah, sicuramente è un bilancio positivo, perché siamo in linea con gli obiettivi che ci avevamo posti, che era la salvezza, quindi penso, magari così, siamo la squadra che ha subito meno gol, magari facciamo un po' di fatica a farlo, però bisogna migliorare, sicuramente miglioreremo. Ecco, vi chiedo se come giocatori, così come spogliatoio, vi aspettate qualche rinforzo dopo le partenze illustri dei recentissimi giorni, Toni proprio recentissima, e Ranocchia anche nel periodo di Natale. Ma sicuramente ci sono in rosa, c'è gente valida, però questo qui tocca alla società decidere se rinforzare o no la squadra. Carlo, non so se c'è qualche domanda dallo studio. Marco Rossi è il giocatore più amato dai tifosi del Genoa, è il simbolo di questo Genoa, quindi a lui posso fare anche delle domande forse un po' difficili. Come avete preso la partenza di Toni, Marco? Ah, sicuramente Luca è un punto di forza nostro, però ha deciso di andare, l'ha cercato la Juve, per lui è stata una richiesta importante, è andato, per noi però era fondamentale, perché quando avevamo difficoltà almeno teneva un po' la palla su, però c'è Destro che è giovane, però è molto molto bravo. Ti ha deluso questa partenza? Sul piano personale? No, no, ripeto, quello che ho detto prima, noi siamo una squadra che si deve salvare prima possibile, poi quando facciamo 40 punti guardare se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Strano che siete passati dall'essere una squadra che prendeva un sacco di gol all'essere quasi improvvisamente, no, con il cambio di allenatore, una squadra che ne subisce pochissimi. Sì, infatti siamo diventati la miglior difesa, abbiamo subito pochissimo, penso 15 gol, c'è stato questo cambiamento, però bisogna farne anche un pochino di più, perché sennò sì. Perché abbiamo fatti pochi, penso che siamo la terz'ultima, sì. La terz'ultima squadra d'attacco. E bisogna sbatterla un po' dentro, caro sì. Capitano. Senti, sì. Ma tu sei, a proposito di bandiera, tu sei una del Genoa, ti senti bandiera del Genoa? Lo sei bandiera del Genoa? No, non mi sento. Ma come no? Bandiere sono tante altre, c'è il capitano Signorini, quindi... Sì. Cose. Però se c'è un giocatore che ha nel cuore i tifosi del Genoa sei tu, e questo non lo puoi negare. Questo non lo puoi negare. Ma non è mente a piacere, questa cosa. Ma non fa piacere. E nei fatti, io sto facendo della cronaca, non è che non do un'opinione. Voglio chiederti, dal tuo punto di vista, come interpreti la vicenda Leonardo? Cioè, Leonardo che va all'Inter, qualcuno che si arrabbia, eccetera. È il calcio di oggi, è professionismo oppure è qualcos'altro? Ma è professionismo, sicuramente. Cioè, ma non c'è più questo attaccamento alla maglia, ognuno poi decide di fare quello che vuole. Io non me la sentirei, personalmente non me la sentirei mai di fare una cosa. Alla Sampdoria non ci vai? No, quello no, è la cosa più sicura al mondo. Grazie capitano, in bocca al lupo. Buonasera. Un abbraccio, grazie Emilio Butaro con Marco Rossi, capitano del Genoa. Adesso altri ascoltatori, naturalmente. Luca Salerno, buonasera. Salve, buonasera. Volevo due cose brevi, volevo il suo parere. Una di questi commenti che sto sentendo oggi anche su Facebook, sulle testate giornalistiche, che dicono che questo campionato sarebbe mediocre perché, diciamo, il Lecce va a vincere a Roma con la Lazio, il Parma va a vincere. Io da tifoso lo definirei avvincente, perché secondo me quando c'è tutta questa, diciamo, questa sorta, sì, di equilibrio. Di equilibrio, non posso dire che è mediocre. Secondo me il campionato spagnolo è mediocre, ma quello italiano io lo trovo avvincente quest'anno. Sì, poi sono d'accordo. Cosa, Luca, sono d'accordo perché adesso non stiamo lì a fare i fini intenditori e a valutare ogni aspetto tecnico, numero dei gol, i moduli tattici, eccetera, eccetera. Ci diverte? Sì, perché è divertente. Ci emoziona? Sì, perché è discretamente emozionante. È equilibrato? Sì. E allora qual è il problema? E allora qual è il problema? Cioè, io preferisco vedere il Lecce che va a vincere a Roma con la Lazio che fa un campionato inimmaginabile, oppure il Brescia che sta vincendo 2-0 a Firenze, poi becca due gol alla fine. In Spagna ci sono dei grandi spettacoli, grandissimi giocatori, c'è il Barcellona che trita qualunque avversario, però io francamente vedere il Barcellona che ne rifila 6 al Valladolid, faccio per dire, e Real Madrid che ne segna 9 al Logroñés, insomma non è che mi diverto poi tantissimo, anche se evidentemente giocatori come quelli che ci sono al Barcellona e al Real Madrid noi attualmente per le ovvie questioni ce le sogniamo. Quindi se io allo sport chiedo incertezze, emozioni, imprevedibilità, in questo campionato c'è tutto nelle giuste dosi, quindi mi diverte, e poi il resto francamente mi pare abbastanza poco importante. Ubaldo, provincia di Genova. Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Sì, sono in provincia di Genova, ma sono friulano e tifo l'Udinese. Avevo gli abbonamenti dei tempi di Causio, di Zico, eccetera. Beh, erano tempi un po' diversi, come campionato italiano, tutti... Sì, ecco, appunto. E allora mi stavo riferendo alla partita di oggi del Milan con l'Udinese. Sì. Io, pur essendo un tifoso dell'Udinese, non mi dispiace che abbia pareggiato, sì, perché se l'Udinese avesse vinto avremmo mandato una disperazione al Parlamento italiano, tutto il popolo italiano, il gran capo, e avremmo rischiato domani, sì, di avere il lutto nazionale. Valuta nazionale magari no, avremmo rischiato qualche esternazione, al massimo qualche esternazione, non penso che si sarebbe rischiato molto di più, no? Mi pare che dal punto di vista calcistico il Gran Capo abbia vissuto dei momenti un po' peggiori. Nella partita sono contentissimo dell'Udinese, il Milan sì, si è arrampicato sugli specchi. Sì, bravo, si è arrampicato proprio sugli specchi il Milan, ha ragione. Sugli specchi, anche Ibrahimovic si è arrampicato sulla schiena del difensore. Boh, comunque... Sì. Comunque meno male che hanno pareggiato e sono contento proprio per quello, così lasciamo tranquilla tutta l'Italia. Così domani, che è lunedì, riprendono un po' tutti, anche i politici, sì. Siamo tranquilli e non succedono grossi casini. Ma io la sento tutti i giorni alle 2. Adesso però non faccia così perché sennò non va bene. Complimenti, basta, li diamo per scontati. Ubaldo, grazie davvero, grazie. Il Chelsea confermo quanto chiede un allenatore. A proposito di... questa è l'FA Cup, quindi giocava con una squadra di altro livello, però se vi divertite a vedere il 7-0 del Chelsea sull'Ipswich, tanto per, forse come risposta, no, al traballio della panchina di Ancelotti, beh, guardatevi l'FA Cup. Chelsea batte Ipswich 7-0, già che ci siamo. Altri risultati, beh, c'era anche un partitone, partitone nei nomi, perché il Liverpool di questi tempi che ieri ha mandato via Oxon per Kenny Dalglish, antica bandiera dei Reds, ha perso il Liverpool 1-0 con il Manchester United, poi il Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, 3-0 sul Charlton Athletic, e il Manchester City di Roberto Mancini, che ha vinto in trasferta con il Leicester 2-1, anzi sta vincendo perché in realtà siamo all'intervallo. Fatemi vedere se Balotelli ha segnato. No, non ha segnato Milner e Tevez, anche qui in rimonta dopo il gol di Bamba. Dunque 2-1 per il City. Roberto, provincia di Parma, buonasera. Buonasera. Dica. Dice una considerazione. Secondo me, col campionato che ci troviamo, l'Inter, se appena qua, lo vince in carrozza, secondo me. E una considerazione sulla Juve. Io, se lei ci capisce qualcosa, sono contento di ascoltarla. Cosa c'entra adesso prendere Luca Toni, che ha 33 anni? Lei prende, vabbè, Rolando Bianchi del Torino, è nettamente migliore, gioca in Serie B. Cioè, Toni andava preso 5 anni fa. Che era... No, ma Roberto, questa mi sembra una mossa emergenziale, quella di Toni. Non è il giocatore che vanno a prendere, sistemiamo la squadra con Toni, no, sistemiamo al momento, anche perché... Ascolti, posso dire un'altra cosa? Prego. Emergenza, d'accordo, però se una squadra come la Juve, non si dice di buttare i soldi che butta il Manchester City, ma se non ha 15 milioni per un'emergenza, ha dato dimissione da grande. No, ma Roberto, lei ha ragione, cioè la Juventus ha bisogno, a mio parere, poi chiudo, do la linea a GR, ne parliamo nella prossima ora, ha bisogno di due giocatori ma di livello internazionale, una punta e un esterno. Presumibilmente difensivo. Facciamo così: Benzema e Bale, tanto per dare due indicazioni che poi possono essere mille altre, però ha bisogno di due giocatori di questo livello per fare il salto sul serio. Stasera sarà una partita delicatissima anche per questi equilibri, io credo, per la Juventus. Ne parliamo dopo, però. A tempo di sport. Dunque torniamo insieme, un sacco di ascoltatori che vogliono intervenire, lo parleremo con piacere con la maggior parte di loro. Io spero 800 24 00 24 è il numero verde. Intanto saluto e ringrazio Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Ciao direttore. Ciao, buonasera, bentrovati. Non ci siamo annoiati oggi pomeriggio? No, assolutamente, direi che soprattutto nel secondo tempo ci siamo divertiti molto. Sì, 24 gol dopo mezz'ora, ne abbiamo fatti 3. Ho detto, sta domenica si dorme, invece poi... Sì, ma devo dire che è una tendenza abbastanza diffusa in questa stagione. Cioè, i primi tempi, in genere pochi gol, i secondi tantissimi. Forse, come dire, si abbassa un po' la tenuta fisica ed evidentemente... si aprono un po' le maglie anche nelle difese. Avevamo chiuso l'ora precedente parlando un po' di Juventus. La partita di questa sera, alla luce dei risultati di oggi, alla luce del momento della sconfitta interna dolorosissima con il Parma, di mille cose, rischia di essere molto delicata per la classifica, per gli equilibri e rischia di essere il bivio della stagione. Vinciamo, magari compriamo, magari proviamo ad inseguire fino all'ultimo questo scudetto, oppure perdiamo e allora magari tiriamo i remi in barca, magari pensiamo al futuro, magari pensiamo a risparmiare. Non so, la sensazione è un po' questa. Sì, Ma io credo che la Juve, a prescindere, non possa comunque tirare rene in barca, nel senso che sarà fondamentale per lei stare nelle quattro della Champions, anche in previsione, in vista del mercato estivo, perché è chiaro che la Juve ha bisogno ancora di rinforzi, di qualcosa per crescere, per arrivare al livello delle milanesi. Quindi sono convinto che nel mercato di giugno qualcosa la Juve dovrà fare, però è importante vedere come questa stagione qui volge e che cosa succede da qui alla fine. Non c'è dubbio che la partita spartiacque, io aggiungerei, dopo una caduta rovinosa come quella con il Parma, non solo perché è maturato in casa in quella maniera, con quel risultato, tra l'altro anche con questo significato simbolico dei gol di Giovinco, ma soprattutto perché si è perso Quagliarella, che era probabilmente l'unico giocatore in questo momento della Juventus con un buon feeling con la porta. Quindi è chiaro che da stasera inizia una seconda Juventus senza Quagliarella, una Juventus che si aggrapperà a Toni, si aggrapperà logicamente a Del Piero, che a questo punto gli viene chiesto per l'ennesima volta di essere un po' il salvatore della patria, e forse è il momento, anzi senza forse, è il momento più difficile nella gestione di Del Neri alla Juve, questo. Sì, non c'è dubbio, è anche vero che a Del Piero si chiederanno gli straordinari, è arrivato Toni, però c'è un attacco che ha più o meno l'età di Dan Peterson, 70 anni in due. Il COS 75 da solo oggi, mille auguri, poi glieli facciamo quando parliamo di basket da 8 e mezza alle 9. Però sì, l'attacco della Juventus di 70 anni non è male, No, non è male, sai, qui è una situazione un po' paradossale, perché la Juve ha cercato la punta, sta continuando a cercare la punta, che probabilmente l'aveva già in casa, che era Trezeguet, anche lui certamente non un ragazzino, però visto che poi in giro non è che circoli tantissimo, io forse sarei stato un pochino più cauto nella cessione di Trezeguet. Su questo mercato la mia sensazione è che la Juve non abbia tantissimi mezzi da investire, non paragonabili per esempio con quelli dell'estate, con quelli degli anni passati, per cui si è dovuto fare un po' di necessità virtù, si è preso questo Toni che era ormai in rottura con il Genoa, quindi si è sfruttata questa separazione fra Toni e il Genoa e quindi si è riusciti a prenderlo. Però mi sembra che questo attacco un pochino faccia fatica, non c'è dubbio, quello è il punto debole della Juve, che per il resto fra centrocampo e difesa piano piano mi sembra che le cose si stia mettendo a posto. Sì, momento delicato per Del Neri ed è correttissimo, ma momento importante anche per il Milan, che a Cagliari vince una partita estremamente importante perché vai lì in emergenza con i ragazzini, dopo la pausa natalizia in cui è tutto più scivoloso, rischioso, imprevedibile, eccetera. Vinci quella partita, poi oggi prendi 4 gol in casa dall'Udinese, a momenti perdi, forse meritavi anche di perdere. Insomma, dai segnali preoccupanti per la solidità di quella difesa. Quando manca Neste, questa non è una novità, è una costante che puoi medicare in una gara come è successo a Cagliari, però quando ti trovi davanti avversarie serie dal punto di vista offensivo come l'Udinese in questo momento, beh, oggi si è visto, no? Ma direi che hai toccato il punto giusto, cioè è chiaro che al Milan quando manca Nesta manca l'equivalente di Ibrahimovic, secondo me Nesta sta a Ibrahimovic come importanza e come valore, lo dimostra il fatto che 3 dei 4 gol che ha subito il Milan oggi, mi dispiace dirlo perché insomma non è una colpa doveresti sostituire Nesta, ma arrivano da ritardi di Bonera che è stato bruciato dagli attaccanti dell'Udinese. Ma sicuro. Senti direttore, sentiamo insieme Ibra con sì. Sky. Negativo è che non prendi 4 gol a casa e fai 4 e non vinci, questo per me è strano, però può stare, siamo ancora primi, perdevamo 3-1, mancava 11 minuti e poi abbiamo recuperato il risultato, questo era più importantissimo. C'era fallo sul tuo gol perché è stato prima contestato, poi Guidolin rivedendo l'azione ha detto no, non c'era forse. No, non era fallo, perché saltavo prima di lui e poi lui saltava, è normale che arriva sotto di me, ma c'è un arbitro, lui decide e non ha fischiato, allora significa che per lui non era fallo. Io ho continuato e poi ho fatto gol. Ibra è di parte, ma io sono d'accordo su questa valutazione. Sì, sì. No, mi sembra che non ci siano dubbi su questo. Se posso tornare al ragionamento che stiamo sviluppando sulla difesa del Milan, sono molto d'accordo. Mi permetto così una critica guardando indietro. Perché quest'estate non si è preso un difensore centrale di assoluta affidabilità? Cioè oggi vedere onestamente Papastathopoulos in panchina e gli è stato preferito Bonera, ripenso anche a quanto è costato Papastathopoulos, quello in un mercato del Milan complessivamente buono, ottimo, visto gli arrivi di Ibrahimovic, di Robinho, eccetera eccetera, mi sembra che sia stato il punto debole della campagna del Milan, per cui quando manca Nesta è un'altra squadra che ha, mantiene, quindi conserva il suo grandissimo potenziale offensivo, ma che dietro evidentemente imbarca molto. E aggiungo, giustamente come ricordavi tu, che l'Udinese non è l'ultima delle clienti, cioè una cliente scomodissima, perché davanti al capocannoniere del campionato, tra l'altro era partito un po' piano di Natale, stavo guardando prima il numero, è a 13 reti, addirittura uno in più dell'anno scorso al giro di Boa, sì. Quindi evidentemente non ha perso assolutamente il feeling con la rete questo giocatore straordinario, Marexis Sanchez, lo stesso Dennis. Quindi se lasci un po' di spazio, come purtroppo ha lasciato Bonera oggi, ribadisco, poi magari ci viene fuori un 4-4. Certo, questi ti castigano. Senti, parliamo un po' con gli ascoltatori. Vincenzo da Caserta, buonasera. Vincenzo non c'è, Giampaolo dalla provincia di Udine c'è? Sì. Eccolo, buonasera. Dica. Buonasera, dica. Volevo dire che ora di finirla con queste sull'istanze arbitrali, perché io capisco che Gattuso finiva gli anni, ma non so come mai lui può picchiare e non viene mai ammonito. E poi qua si parla sempre, il Milan gli manca questo, gli manca quell'altro, non parlano mai che l'Udinese ha messo sotto il Milan in tutto e per tutto, perché se uno ha visto la partita e dice ma ha avuto mi pare che lo stiano dicendo, no? No, avete detto sempre manca Nesta, manca quell'altro, l'Udinese sì. Non manca mai nessuno, no? Quando manca l'Udinese nessuno lo dice. Abbia pazienza Giampaolo, io capisco la rabbia del tifoso Gattuso, tutte queste cose qui, però abbiamo appena finito di dire, io il direttore Marani, che l'Udinese oggi se esce da San Siro con i tre punti sono tutti meritati e che il pareggio può anche andarle stretto. Abbiamo appena finito di dire che manca Nesta, nel momento in cui manca Nesta ti trovi davanti un attacco forte come quello dell'Udinese e allora sono problemi, mentre magari a Catania, a Cagliari la passi liscia, con l'Udinese no. Se non va bene anche questo, ma non è per dar ragione a lei o torta a quell'altro, è semplicemente per logica, no? Lasciamo stare Gattuso su distanza psicologica e tutte queste cose, no direttore, o vogliamo dire di Gattuso? No, nel senso, aggiungo poco, cioè nel senso, io sono un estimatore dell'Udinese, mi piace come squadra, come gioco, come ha lavorato Guidolin, lo dimostra poi il fatto che tutti i giocatori dell'Udinese sono tutti uomini di mercato, quindi evidentemente l'apprezzamento non è soltanto nostro, ma di chiunque segue, sono tutti giocatori che piacciono a tutti i club, e dimostrazione che sta lavorando molto bene. Guarda, ci pensavo anch'io guardando la partita, l'assurdo, insomma, la cosa strana è che l'Udinese è partita con quelle quattro sconfitte, fosse partita quest'anno almeno con quei quattro punti nelle prime quattro giornate, oggi sarebbe attaccata al Napoli, sarebbe a ridosso del primo posto, per dire quanto ha fatto bene, ma siamo tutti gli estimatori, tutti apprezziamo il lavoro che ha fatto Guidolin, quindi certo. Da questo punto di vista non mi sento colpevole di nulla. Nemmeno io. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. A presto, grazie a Matteo Marei, direttore Guerri Sportivo. Ci fermiamo per il traffico subito dopo Vincenzo da Caserta, che siamo riusciti a recuperare telefonicamente. 800 24 00 24 è il numero verde, a dopo. Strade in diretta. Serata caratterizzata da un intenso traffico di rientro, tanti veicoli in viaggio verso le grandi città al termine delle festività. Per un incidente le code di 3 km sulla 4 Milano-Brescia tra Seriat e Bergamo verso Milano. Traffico particolarmente rallentato intorno a Napoli, stasera il big match del San Paolo. Bisogna prestare attenzione alla nebbia sulle pianure del nord e lungo le coste adriatiche del centro-sud. C'è nebbia sulla A4 tra Desenzano e Montebello e tra Padova e Venezia. Intorno ai 100 metri la visibilità sulla A14 Adriatica tra Cattolica e Ancona e tra San Benedetto del Tronto e Poggio Imperiale. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. I temi della sostenibilità e della responsabilità di impresa stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, sia nelle grandi aziende, sia in quelle piccole e medie, e gli scenari globali impongono una visione che non punti solo a risultati economici. Il rispetto per l'ambiente, le persone, le comunità locali e la società sono sempre più parte integrante delle strategie delle imprese in grado di favorire il loro sviluppo economico. DNV, Fondazione Internazionale Indipendente, tra i principali enti di certificazione, supporta le imprese nella gestione e prevenzione dei rischi, accompagnandoli in una crescita sostenibile nel pieno rispetto delle esigenze sociali e ambientali. Per saperne di più, www.dmv.it. A tempo di sport. Dunque Vincenzo, buonasera. Ciao, buonasera a Ciao. Tutti. Dimmi. Ciao. Dimmi tutto. Senti, io adesso mi trovo qui in coda fuori Grotta, che sono andato a vedere la partita del Napoli. Sì. però sono, diciamo, sono un tifoso interista, sì, il quale ha visto anche, ha partecipato alla magica vittoria a Madrid, che è allo stadio ero. E vi dico una cosa, io non sono di parte, però vi garantisco che la squadra più forte in assoluto è l'Inter. L'Inter ha i suoi giocatori. Sei di parte, però dici, perché no, sei no, di... no, no. Ah, come non sei? Hanno esonerato l'allenatore. Sì, sì. I giocatori esonerato l'allenatore. Sì. E il Milan è un fuoco di paglia. Il Milan oggi meritava di perdere a Cagliari, non meritava di vincere. Anche l'Inter oggi non è che abbia fatto una grande partita, no? Corretto. Però... Quando i gol li fanno i centrocampisti, uomini come Cambiasso, Stankovic, io credo che è ritornata l'Inter dell'anno scorso. Insomma. Beh, insomma, in questi momenti sono i giocatori chiave, no? quelli che ti portano fuori dalle secche. Non è un caso che Cambiasso sia stato il migliore in campo l'altra sera con il Napoli, che oggi abbia segnato questa doppietta, non è casuale, dunque mi sorprende poco. È vero anche che oggi rientrava Eto'o, non si è visto moltissimo. Vedo in lontananza un certo problema di rapporti tra Eto'o e Milito, perché sarà difficile togliere a Eto'o la voglia del gol, di prendersi il centro dell'attacco del palcoscenico per fare di nuovo la spalla a Milito, che in questo momento è impresentabile. Quindi questo problema può esserci, però non mi sorprende il fatto che è corretto dire che probabilmente sono stati i giocatori ad esonerare l'allenatore, forse un po' forte, però certamente quell'allenatore non andava a genio ai giocatori chiave, ai giocatori che hanno vinto quello che hanno vinto. Dunque l'allenatore è stato cambiato. Con questo c'è empatia, parola strausata in questi giorni, si vede, si sente, si tocca, arrivano 6 punti in 2 partite e arriva, non so se il Milan sarà un fuoco di paglia, questo forse è un'illusione da tifoso. Certo, quello di oggi è una mano di carte favorevole all'Inter. Che si sta andando a fare a San Paolo? A vedere la partita, così, da amatore, diciamo. Sì, no, non porto coinvolto. Porto mio nipote tifoso juventino. Ah, porti tuo nipote... Ma la vedo triste per loro stasera, per la Juventus. Mi sa tanto che stasera, con un attacco così ridotto male della Juve, ne avete parlato prima voi, sì. un Napoli che ha fatto una figuraccia con l'Inter, perché è stato dominato nel secondo tempo. Ma sarà una partita chiave per il Napoli, dobbiamo capire quanto vale questo Napoli, dobbiamo capire quali sono le ambizioni di questo. A me il Napoli è una squadra che piace tantissimo. È una grande squadra, è una bella squadra. Veramente gioca bene, un bel calcio. Poi il problema del Napoli è che il presidente non vuole mettere mano al portafoglio. Ma poi ogni tanto la mette, dai, perché... La deve mettere perché... Ogni tanto la mano al portafoglio la mette, se poi non si vuole non si vuole svenare per comprare Maradona, insomma, liberissimo di non farlo. Però insomma mi sembra che abbia costruito De Laurentiis in questi anni e in queste stagioni, perché comunque un attacco come quello del Napoli io lo vorrei nella mia squadra, Cavani, il Cavani di quest'anno, insomma, fuochi d'artificio fuori grotta quest'anno. Grande. Quanto alla Juventus, questa sera la vediamo, ripeto, sarà una partita determinante per il futuro della Juventus. Di non potete stare tranquillo, stasera sarà una serata, io credo, un po' di sofferenza per la Juventus. Sì. Io credo anche io, tanta sofferenza, tanta sofferenza. Il Napoli stasera veramente fa una grandissima partita, ne sono sicuro e convinto. Grazie Vincenzo, buon viaggio, ciao, buona partita. Ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao. La verità è che Ibrahimovic sposta gli equilibri e senza di lui il Milan sarebbe a livello di Napoli, Juve, Roma, questa è la verità. Il Nino d'Erba, difficile dargli torto, insomma, il livello di Ibrahimovic è il giocatore che fa la differenza. Ibrahimovic è il giocatore che fa la differenza, Iniesta è il giocatore che fa la differenza, e oggi l'abbiamo visto. Franco da Milano, buonasera. Parte il fatto che poi magari vorrei parlarne, sono curioso di capire cosa è successo, cosa sta succedendo nel momento della Roma, che non mi è chiarissimo, perché perché nella partita di oggi, in cui Totti viene fatto scaldare, viene fatto entrare al 90esimo, in cui De Rossi viene tenuto in panchina, De Rossi tolto all'intervallo della partita di giovedì, mi sembra sia in atto una sorta di braccio di ferro tra Ranieri e i leader di quella squadra, per motivi che non so, però mi sembra che questo braccio di ferro sia evidente, e la Roma finisce per scontare questo in punti e in continuità, perché non riesce, dopo arrivava da 3 vittorie e oggi questa battuta d'arresto che la ributta molto indietro. Franco, prego. Buonasera a tutti, io sono Franco da Vimercate, torno adesso da San Siro, no? Vi stavo ascoltando in radio. Sì. Allora, prima di tutto vorrei fare 2 considerazioni. La prima è per quanto riguarda il discorso della squadra in Europa, eccetera, eccetera. Io non vedo molte altre forze devastanti. Cioè, cosa c'è il Barcellona, Real Madrid, poi non vedo null'altro, cioè superiore al Milan, secondo me. Quindi lei dice il Milan a livello anche, facciamo così, del Manchester United, il Milan a livello del Chelsea? Mettiamolo a livello del Manchester United, quella squadra lì, ma dico, a parte il Barcellona e il Real Madrid, non vedo queste grandi, queste grandi potenze calcistiche a livello europeo. Mentre la seconda considerazione era questa, a parte il fatto che non ci sarebbe stata tutta l'Italia in lutto dopo la sconfitta del Milan eventuale contro l'Udinese, per cui volevo rispondere un po' all'amico di Udine. Sì. Io sono stato a San Siro oggi, sì, da milanista sono deluso per il 4-4, però non ho visto, cioè voglio dire, se avessimo anche vinto la partita non avremmo rubato niente, perché insomma l'Udinese è gran bella squadra, tutto quanto, ma ha fatto 4 puntate con 4 gol. Cioè. E questo, però questo è un po' preoccupante, Franco, se gli avversari 4 volte, che poi l'Udinese insomma, secondo me ha giocato una signora partita. Detto questo, se in 4 volte fanno 4 gol, c'è qualcosa che non va, no? Niente, però io sono ottimista, sai per quale motivo? Le spiego subito. L'anno scorso, ad esempio, anche l'Inter ha avuto qualche debacle, tipo con la Siena. Molto in difficoltà, dopodiché ha recuperato la partita, però è stata una grande Inter di qua e di là. No, ma comunque il fatto di recuperare la partita di oggi è l'aspetto più positivo, non c'è discussione su questo. Il Milan è riuscito a non perdere la partita di oggi, è un punto guadagnato certamente per il Milan, non c'è dubbio. Anche quello di Cagliari, anche a Cagliari sono 3 punti guadagnati, sono segnali di forza. Noi con il signor Leo, tanto decantato anche prima, e molto probabilmente questa partita non l'avremmo recuperata. Però faccia il bravo, il signor Leo non aveva mica Ibrahimovic, il signor Leo doveva giocare senza Nesta, senza Pato e con la tassa da pagare che è andata ora in Brasile, Ronaldinho, che abbiamo visto che non era poi il più forte giocatore della storia del calcio, come una volta Berlusconi disse. Sarà anche stato un enorme giocatore, ma quello che abbiamo visto qui anno scorso compreso era una discreta tassa da pagare in molte partite. Sicuramente, concordo con lei, però io con molta nonchalance le vengo a dire che noi quest'oggi, visto che con l'Inter diceva manca questo, manca quello, noi mancavamo un certo Andrea Pirlo, un certo Ambrosini, un certo Viati, un certo Boateng, insomma. Ma soprattutto mancava Nesta. Solare, scusi se posso. Sì, no, ma mancavano oggi come mancavano a Cagliari, questo è cronaca. Detto questo, io non credo che il Milan possa fare a meno per molte partite di Alessandro Nesta, il quale non ha, ma quanto pare, infortuni particolarmente seri, però sappiamo anche che è un giocatore a rischio. Se, come capitò l'anno scorso a Leonardo, a un certo punto, e facendo tutti gli scongiuri del mondo, milanisti o non milanisti, Nesta facesse crack, questo Milan andrebbe in pesanti difficoltà, secondo me, anche nella corsa scudetto. Perché sono d'accordo su con chi dice, l'abbiamo fatto prima, che Nesta ha più o meno il peso di Ibrahimovic in questa squadra. Francesco da Napoli, buonasera. Buonasera. Niente, volevo dire... Sta andando a San Paolo anche lei? No, io sto andando a Roma perché vivo a Roma da Napoli. Però sicuramente vedrò la partita, voglio dire. E ci mancherebbe. Volevo dire, va bene tutto, va bene il fallo di Ibrahimovic, va bene il Milan, va bene Leonardo all'Inter, però penso che dobbiamo guardare tutti quanti con grande interesse questo grande Napoli. Perché voglio fare soprattutto un invito stasera a tutti gli amatori del calcio di guardare sicuramente la partita del grande Napoli, perché veramente sta stupendo, è andato oltre proprio le aspettative il Napoli. Penso sicuro. Anche se mi ha un po' deluso l'altra sera a San Siro. Buon primo tempo, ripresa non pervenuta. Di solito noi a Napoli siamo soliti nel dire che dopo aver mangiato il panettone di Natale ci resta sempre indigesto, e questo è stato... Sì, più che altro è stata qualche festa. Lei sa che c'è stato questo matrimonio in casa Napoli, esatto, che è sposato la sorella di Anzic, grandi feste baldorie. Ma vedi, questo conferma anche poi l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio di questi posti che si intrecciano, e si spiega anche perché poi riesce a fare una stagione così entusiasmante come quella che sta affrontando il Napoli. Tutti parenti, siamo tutti parenti, Parenti a fratelli, sì. No, dico, l'unica cosa che voglio dire, forse è un po' una pecca in difesa il Napoli, però penso che approfittando della finestra di mercato qualcosina può ancora fare, però... Sì, cerca un mancino, Mazzari l'ha detto anche l'altra sera, gli serve un mancino perché col solo Aronica, il suo Aronica non basta. Sì, credo... Perché Aronica la sua età ce l'ha adesso, è in campo, inizia a fare anche delle prestazioni, diciamo, deludenti, ringraziandolo sempre per quello che ha dato a Napoli, però insomma, ci vorrebbe un ricambio fresco. Ci vorrebbe qualcosa di nuovo, ci vorrebbe qualcosa di nuovo per il Napoli, ma anche, torno a ripetere, per la Juventus. E magari chi vince questa sera? No, Juventus niente. Voglio fare solo un augurio alla Juventus, in particolare a Quagliarella, che spero che l'infortunio che ha avuto lo faccia capire, no? Che l'umidità e il freddo che ci sta non va bene per lui, questo con il legamento rotto del ginocchio non c'entra tantissimo, però certamente augurio da girare a Quagliarella, non c'è dubbio, da Napoli fresco. Grazie Francesco. Paolo Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Pronto, la sento, dica Paolo. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo dire, io ho sentito giustamente lei far rilevare che al Milan, mancando Netta, viene a mancare il perno della difesa, però anche presentarsi, sapendo che manca Netta, presentarsi con due mediani, Seedorf e tre attaccanti che non tornano neanche a spararli, è un po' andare a suicidio contro qualunque squadra, a parte l'Udinese che gioca bene. E quindi penso che Leonardo, quando avrà visto quella formazione del Milan così, avrà sorriso notevolmente pensando, perché era più o meno quella che faceva lui, sì, però aveva altra gente che correva, esatto, di mezzo, non un Gattuso a mezzo servizio, un ragazzino di 20 anni. Sì. In questo momento che Nesta può far molto, però quando non c'è centrocampo e arrivano tutti di corsa. Questo è evidente, però Nesta è un giocatore importante soprattutto in queste situazioni estreme. A mio parere, non hanno due terzini, proprio perché manca Nesta, sai che hai due terzini che non sono dei fulmini di guerra, ne metti solo due mediani e quattro in avanti che non ritornano, sì. È facile prendere quattro gol. Certamente il Milan oggi non era al massimo dell'equilibrio, lei su questo ha ragione, però torno a ripetere, secondo me Nesta è un giocatore importante soprattutto in queste situazioni estreme. Io ricordo l'anno scorso con Leonardo, quando era stata varata questa formula fantasia, gli attaccanti attaccano, i difensori difendono, e sulla difesa del Milan sbattevano gli avversari come arieti, e c'era Nesta che, finché ne ha avute, finché non si è fatto male, metteva una pezza qua e una là, esaltando, lo ripeto, perché secondo me la caratteristica è questa, il rendimento dei compagni di reparto. È chiaro che se giochi contro una squadra come l'Udinese che va a mille, che al capocannoniere del campionato, ha dei grandi attaccanti eccetera eccetera, hai una formazione che non è il massimo dell'equilibrio, hai un sacco di assenze, ecco che si accende la luce rossa dell'emergenza per la difesa, e una volta che non c'è Nesta può anche succedere che ne becchi 4 come è capitato oggi. Ci fermiamo un attimo, poi già tanti altri ascoltatori all'800240024, i primi Tiziano, provincia di Milano, e Nicola dalla provincia di Napoli. Continuiamo su quest'asse, Milano-Napoli, con grande piacere, a dopo. Camion Supermarket è in edicola. Trova il tuo nuovo mezzo da lavoro. Più di 5.000 occasioni ti aspettano ogni mese. Camion Supermarket, corri in edicola. Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell. Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda. Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto. Hi, sono John Peter Sloan. Se non riesci a imparare l'inglese o proprio non lo digerisci, volevo dirti che hai ragione. E soprattutto il problema non sei tu, è come te lo insegnano. Pensa che di questo inglese mi sono stufato anch'io, che sono inglese. E allora ho inventato un metodo nuovo che ha una bella particolarità. Te lo fa imparare, finalmente. Speak Now, di John Peter Sloan. Il corso d'inglese facile, veloce, divertente. Da domani, il primo libro più il primo DVD a soli 4,90€ in più con Repubblica o l'Espresso. A tempo di sport. C'è chi nota Massimo da Varese, 349-238-6666, mi fido di lui, non ho in questo momento gli elementi per andare a controllare, però Massimo sottolinea come il 9 gennaio per gli amanti delle statistiche è giornata di grandi rimonte, vedi Inter San 3-2, Inter Siena 4-3, oggi Milan e Fiorentina. La prendiamo per buona e la giriamo nell'etere. Tanto Tiziano, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo fare una considerazione, magari andando un po' in controtendenza con gli altri ascoltatori milanisti un po' delusi oggi. Secondo me la partita di Cagliari e anche il pareggio di oggi sono quattro punti che profumano di scudetto. Anch'io poco fa. Non tanto per il gioco espresso, che sicuramente non è un gioco spumeggiante come magari ci aveva abituato il Milan degli anni d'oro, però io penso che in una situazione, diciamo così, di problemi in difesa, di mancanza di titolari, strappare quattro punti in due partite così difficili sia un po' come faceva l'Inter di Mancini, sì, o l'Inter di Mourinho. Cioè, Tiziano, per farla facile, se a Cagliari devi pareggiare e vinci, se oggi devi perdere e pareggi, basta fare i conti, sono punti guadagnati, no? Infatti, è quello che penso anch'io. Magari qualche tifoso interista dovrebbe ricordarsi che anche loro, io mi ricordo parecchie partite che ero lì a gufare, e o andavano a pareggiare o andavano a vincere negli ultimi minuti, e quindi insomma io penso che sono proprio segnali molto importanti. Poi anche l'ottimo inserimento di Cassano, in 40 minuti ha fatto 3 assist, sì. Mi sembra un aspetto positivo. L'unica cosa che secondo me manca a questa squadra sono due terzini di livello, perché secondo me Antonini e Abate sono degli ottimi ragazzi, si impegnano molto, ma io penso che in una squadra come il Milan, impegnata anche magari in Champions League ad alti livelli, due terzini di questo tipo non siano molto presentabili, secondo me. Sì, non sono certo superstar a livello internazionale, però è anche vero che in una squadra non puoi avere 11 superstar di livello internazionale. Diciamo, ripeto, che se la superstar di livello internazionale gioca al centro della difesa, anche Antonini e Abate possono andare bene, magari non percorrere, come diceva l'ascoltatore di prima, verso la Champions League. Lì mi sembrava che la facesse un po' troppo semplice, che al di là di Barcellona e Real Madrid non c'è nessuno più forte del Milan. Questo vediamo e lo vedremo con la ripresa delle coppe, però è anche vero che se gioca appunto il re della difesa e gioca ovviamente il re dell'attacco, le cose funzionano, altrimenti magari qualche rischio in più si corre. Nicola, provincia di Napoli, buonasera. Salve, buonasera dottore, complimenti, buonasera, per la trasmissione. Grazie. Le volevo fare una domanda riguardo il Napoli. Prego. Sul mercato di gennaio si parla tanto di Criscito e Vocanile. Con questi due acquisti eventualmente, il Napoli secondo lei potrebbe fino a fine maggio lottare per il terzo, quarto posto? Le faccio di nuovo i complimenti. Grazie, e poi sono d'accordo con il tifoso che adesso ha preceduto, questo è l'anno del Milan, solo questo dico, perché sono segnali, vedo sono che segnali. Gira tutto a favore del Milan. A Cagliari magari doveva perdere, perché se andiamo a vedere facciamo 0-0 a Cagliari e una sconfitta oggi con l'Udinese, potevano essere due risultati che stavano nella logica delle cose del gioco, no? Invece il Milan ha fatto vittoria, pareggio, e sono segnali, indubbiamente segnali di scudetto, questo è indubbio. Quanto al discorso del Napoli, credo che per un campionato di questo tipo il Napoli possa fare la corsa anche alla zona Champions League, anche senza gli acquisti che lei ha citato, Criscito e l'altro non ho capito, ma comunque credo che il Napoli sia competitivo nella corsa al quarto posto anche così com'è. Se poi inserisce qualcuno di funzionale, quantomeno sono tasselli che possono andare bene anche per il futuro. Non mi sembra abbia bisogno onestamente di grandi ritocchi, al di là del mancino che ha chiesto Mazzarri anche l'altra sera allo spogliatoio. È evidente anche che il rendimento delle superstar del Napoli deve essere molto diverso da quello visto a San Siro, dove dove sia Hanzik che Lavezzi che Cavani hanno ampiamente deluso. Credo sia stato un passaggio a vuoto così stasera. Vediamo la prova del 9. Gianni, buonasera da Milano. Buonasera. Dica. Io ero a Milano, ho visto la partita. Sono d'accordo, non completamente, con tutto quello che ho sentito dagli altri interessati. Sì, sì, manca Nesta, però manca Prisboateng a centrocampo, manca Ambrosini. Sì. C'è un Sedos che gioca centrale che attualmente non è presentabile. Sì. Ed è origine anche di un gol clamoroso di Di Natale. Manca le fasce, il gioco sulle fasce. Tre punte sono un po' esagerate con questo calibro qui, con questo Udinese. Forte sulle gambe, molto pimpante, un Guidolin che ha messo bene la squadra in campo. Sì. Quindi non è tanto la mancanza di Nesta, che sì, si è fatta pesare notevolmente, però i motivi sono più di uno, insomma. Sì, la prestazione, sì, certo, del Milan oggi è stata questa. Certamente. Fatalità, io ero allo stadio, alla fine magari non giustamente riuscivamo anche a vincere. Sì, con quel tiro di Abate rimpallato, poteva venire fuori anche questo numero sulla ruota di Milano. Sarebbe stato onestamente eccessivo, questo anche gli stessi milanisti lo riconosceranno senza problemi in una partita come quella di oggi. È vero tutto questo, resta il fatto che beccarne 4, e 4 sono tanti, in casa dall'Udinese, per una squadra che ha avuto fin qui la miglior difesa del campionato, come ha citato prima Allegri, prima di oggi soltanto 13 gol subiti, beh, magari qualche campanello d'allarme deve farlo suonare. Torno a ripetere quanto detto prima: l'importanza di un giocatore come Nesta, senza farla troppo lunga, sta nel fatto che proprio in situazioni limite estreme, in cui hai poco equilibrio, in cui la difesa è costretta agli straordinari, è evidente, no? È evidente anche che 4 gol presi in casa da Udinese, qualche pensiero di aggiustamento anche tattico per il futuro ad Allegri debbano metterlo. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera, senta, sì, questa ricarica quella dell'altro anno, la sconfitta della Roma, grazie. Cosa ha detto? La sconfitta a Roma dell'altro anno? Non lo so, non ho capito, non so se voi avete capito, ditemelo, perché a me è proprio sfuggito. Antonio, provincia di Siracusa. Niente Antonio dalla provincia di Siracusa. Adesso riproviamo, linee disturbate, sarà il tempo, l'umido su Milano. 800 24 00 24 è il numero verde. E beh, oggi c'è chi sottolinea anche via SMS che ricorda anche l'assenza di Abbiati, ma anche Abbiati è insostituibile. Vorrei sottolineare la deludente prova di Amelia, no? Non credo che Abbiati possa rientrare tra gli insostituibili del Milan, anzi Amelia mi sembra un secondo portiere assolutamente all'altezza. C'è chi scrive: Roberto, non darei per morto Toni. No, non, nemmeno io lo darei per morto, anche se non ha fatto una grande stagione certamente fin qui con il Genoa. E insomma, arriva alla Juventus e dopo 3 giorni ha subito un sacco di responsabilità sulle spalle, perché la partita, come abbiamo detto, è quella di stasera, è estremamente delicata. È chiaro che non può essere Toni quello che risolve i problemi della Juventus, ma questo lo sanno perfettamente anche loro, l'hanno detto. Cioè, Toni probabilmente l'avrebbero preso lo stesso, perché Iaquinta passa più tempo in infermeria che sul campo ormai da diverse stagioni. Stesso discorso vale per Amauri. Stesso discorso vale per Amauri, che comunque ha smesso di incidere ormai da un anno e mezzo. Non è più un giocatore così determinante, quindi Toni è semplicemente un in più nelle rotazioni e questo serviva. Non è il giocatore che può fare salto di qualità alla Juventus, questo lo sanno tutti, è una banalità. Gabriele da Napoli, buonasera. Cosa succede? Gabriele? Pronto? Pronto? Ah, buonasera. Buonasera, dica. Intanto la ringrazio della compagnia che mi sta facendo, perché io sono in viaggio. È in viaggio per dove? Bah, chi lo sa, linee disturbate oggi. Sarà in viaggio per il San Paolo, sarà in viaggio per andare a vedere la partita del Napoli contro la Juventus di cui stiamo parlando. Io ho Luca da Milano anche in linea, tra poco lo faccio parlare, però ho ancora il discorso sulla Roma da evadere. Pochi ascoltatori, al di là di quello che prima ha bofonchiato qualcosa sui giallorossi, sono anche le voci di oggi, di Ranieri, dopo questa sconfitta. Ieri Ranieri aveva detto: questa partita è il trampolino di lancio, 3 vittorie e se vinciamo questa siamo proiettati verso lo scudetto. Invece torna a casa con una sconfitta, due errori di Juan quasi inspiegabili. Io immagino diversi conti da regolare all'interno di quello spogliatoio, perché non credo che possa passare sotto silenzio il trattamento punitivo che oggi ne era riservato a Francesco Totti, che ha riservato anche nelle ultime due giornate a De Rossi. Non sono giocatori qualunque in quello spogliatoio. Pertanto, Ranieri, io ve lo faccio sentire subito, poi ne parliamo. Dal punto di vista psicologico non ci deve pesare, non ci deve pesare più di quello che dice, perché sì, è grossa, però insomma quest'anno sta andando così. Io dico sempre che se riesci a lottare nei momenti difficili e poi la fai girare dalla tua parte, per cui noi dobbiamo continuare. In casa ho visto l'altra settimana, siamo i primi in classifica perché abbiamo fatto più punti di tutti, e fuori casa invece non riusciamo a far quadrare il cerchio, e piano piano lo dobbiamo far girare dalla nostra parte. Dobbiamo continuare a lottare, a giocare come abbiamo fatto oggi, e poi non si commetteranno più questi errori, insomma. Ranieri ha parlato anche del fatto che comunque è una Roma che non vuole arrendersi nella corsa. La squadra aveva giocato bene, si era trovata bene, eravamo venuti con la voglia di vincere, lo stavamo facendo. E va bene, tanto non ci arrendiamo, ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lottare come stiamo facendo. Luca Dalinano, buonasera. Buonasera dottore. Dica. Complimenti per la trasmissione, arrivo subito al punto. Sono juventino e quindi un po' preoccupato. Volevo sapere se lei sa se Mutu potrebbe arrivare o qualche altra seconda punta di livello alla Quagliarella, diciamo, se con Toni è chiuso tutto. No, io non credo, però lei ha fatto bene a citare Mutu, perché è un giocatore che in questo momento è sulla panchina del Parco, licenziato praticamente dalla Fiorentina con richiesta di danni, come ben sapete. E Mutu è un giocatore che a me piace, al di là del fatto che è un pazzo furioso, come sappiamo, un giocatore estremamente difficile da gestire, eccetera. Ma dal punto di vista del talento, del rendimento delle ultime stagioni, è un giocatore che a me piace tantissimo e di cui la Fiorentina non potrà non sentire la mancanza in questo finale di stagione. Potrebbe essere giocatore adatto per la Juventus. Io non credo però che la Juventus abbia voglia di portarsi a casa un giocatore con il suo passato, le sue caratteristiche emotive, diciamo così. Pertanto la pista Mutu, che pure potrebbe essere intrigante, non credo verrà perseguita. Non credo nemmeno però che sia finita qui. Cioè, non credo che la Juventus possa risolvere la pratica mercato invernale con il solo Luca Toni, perché altrimenti sarebbe un chiaro segnale, e cioè quest'anno siamo certi di non essere più competitivi per lo scudetto. È anche vero che c'è una zona Champions League da inseguire, da raggiungere, che oggi è tutt'altro che scontata. Dunque credo che la Juventus farà ancora dell'altro sul mercato, e la partita di questa sera ci potrà permettere di capire fino a che punto la Juventus avrà voglia di impegnarsi su questo mercato. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. È chiusa per un incidente la superstrada Orte Ravenna tra San Carlo e San Vittore in direzione di Ravenna. Le deviazioni sono indicate sul posto. Per un tamponamento le code sulla 14 Adriatica verso Bologna tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Bisogna prestare attenzione alla nebbia lungo le coste adriatiche del centro-sud e sulle pianure del nord. Intorno ai 100 metri la visibilità sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Ancona e tra San Benedetto del Tronto e Poggio Imperiale. C'è nebbia anche sulla A4 tra Desenzano e Montebello e tra Padova e Venezia. Particolarmente rallentata la circolazione intorno a Napoli tra i rientri al termine delle festività e i tifosi diretti allo stadio alle 20:45, il big match del San Paolo. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Si fa sempre più forte la voce dei cittadini che chiedono di risparmiare sulla bolletta energetica, beneficiando di energia pulita. Cofeli Gruppo GDF Suez ha deciso di ascoltare questa voce e di realizzare per la città di Biella un impianto di teleriscaldamento che ha permesso di raggiungere più di 200 tra famiglie e utenze pubbliche e private. Grazie al teleriscaldamento, con l'utilizzo del sistema di cogenerazione, cioè produzione contemporanea di energia elettrica e termica, i cittadini di Biella possono risparmiare sulla bolletta e sui costi di manutenzione le caldaie, contando su una maggiore sicurezza degli impianti. Cofeli è l'efficienza energetica e ambientale in azione. Maggiori informazioni sul sito Cofeli. A tempo di sport. C'è chi scrive: ed è Arturo, penso che Totti e De Rossi siano impresentabili, per questo Ranieri li mette in panchina. Non gli si può dare la colpa per gli errori di Juan. Certamente non gli si può dare la colpa per gli errori di Juan, però in molte altre occasioni avevamo visto soprattutto Totti, ma in qualche caso anche De Rossi, giocare in maniera indiscutibile senza essere in buone condizioni. Ripeto, a Roma, nella Roma, per l'ambiente, gli equilibri, questi non sono semplici giocatori, cioè non sono due che liquidi con il fatto non stai bene, vai in panchina ed entra al 90esimo, perché lo sapete anche voi, no? Lo sa anche Giovanni, che chiama proprio da Roma. Buonasera Giovanni. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Io volevo semplicemente dire, la Roma c'era oggi, è solo per un errore di Juan, anzi due errori di Juan, che ci siamo giocati la partita, perché effettivamente la Roma era lì, pronta a vincerla e mettersi lì sul Milan. Sì. Solo perché questa Juan non è solo oggi che ha sbagliato, anche la settimana scorsa, cioè due giorni fa. Sì. E niente, non so cosa succede a questo, cosa è successo a lui, perché è un campione. No, è quello che ha detto Ranieri, è un campione, ha sbagliato, punto e basta, ok, va bene, però resta il fatto che stavolta per ora di qua, in altre occasioni, per altre circostanze, la Roma non riesce a prendere un passo da scudetto. E poi, ripeto, i nervosismi di Borriello, la lite di Totti con Burdisso, l'ambiente, è inutile che ci vengano a raccontare che sono amici e fratelli, non è così. Evidentemente in quello spogliatoio qualcosa sta succedendo, evidentemente c'è un certo braccio di ferro in atto tra non so, l'allenatore e le bandiere romaniste di questa squadra, ad esempio Buttolì. Certamente non è tutto semplice e liscio come poi raccontano. Questa è la sensazione che ho dall'esterno. Lucia da Napoli, buonasera. Buonasera. Buonasera Lucia, come sta? Bene, sto andando allo stadio a vedere la partita. Volevo rispondere al tifoso juventino che ha chiamato prima dicendogli che fa bene la paura per questa sera. Il Napoli è una grande squadra, lo stiamo dimostrando, e c'è un grande cuore. Sì. Anche se l'altra sera a San Siro un po' mi ha deluso, non so a lei. Hai ragione, non è stata una delle migliori partite, ma voglio dire, se non si va male non si può riprendersi e andare meglio. Un attimo di down ci vuole sempre, l'Inter comunque non è proprio una squadretta. No, certo, però quella ripresa, insomma, l'Inter mi sembrava un po' in difficoltà fisicamente, mi aspettavo un grande Napoli nel secondo tempo e invece un po' si è slegato, ma il domandone è: Cavani riuscirà a restare a questi livelli? Assolutamente sì, voglio dire, non è magari abituato a tanta cucina napoletana ha dovuto sopportare in questi giorni, però si riprenderà. E poi volevo dire, secondo me Quagliarella, diciamo, si è fatto male per evitare i fischi del Napoli dello stadio questa sera. Sì. Volevo esprimere questo mio pensiero. Ah Lucia, dai, poveretto, ma può farsi venire il mal di pancia, ma spaccarsi un ginocchio no. Non so fino a che punto sia vero, io comunque dubito. L'hanno operato oggi Lucia, poveretto, probabilmente è una partita che gli va bene di non giocare, però insomma è un peccato, diciamo che si è risparmiato insomma i fischi dello stadio, che non sono pochi, quello non ho dubbi, ma sa come dice quel detto, non è riuscito a essere profeta in patria, non è l'unico, però evidentemente quelli che sarebbero stati fischi, che l'anno scorso erano dimostrazioni di amore, di affetto, sono state troppo pesanti per lui. Questa è la sensazione che ha avuto su Quagliarella, troppo pesante quella maglia, probabilmente gli voleva troppo bene per riuscire ad essere killer fino in fondo, no? Non so. Penso che lui sia stato più interessato a una questione economica che a una questione di cuore. Non lo so Lucia, buona partita. Ok, forza Napoli allora. Grazie Lucia, torna a trovarci quando vuole. Filippo Maria Ricci torna a trovarci invece tutte le domeniche. Ciao Filippo. Se mi sentite, sentiamo te e i rumori del Bernabeu. Sì, lo speaker che annuncia la formazione. E non si compra nessuno, No. Non si compra. Real Madrid che non compra. Immagino cosa dirà Mourinho se stasera non dovesse andare secondo i piani, anche perché c'è il Villarreal che In settimana ha fatto, mi pare, una specie di miracolo, no? In Coppa del Re. Sotto 2-0 ha vinto 4-2 con un grande Pepito Rossi. Sì, esatto, per avevano 2-0 in intervallo e hanno fatto 0-0 l'andata, ritorno e giocavano in casa, hanno fatto 3 gol, ne hanno fatti 4. Stasera sono qua, gli manca Nilmar, Marcena, sì, sono un po', diciamo, rimaneggiati, però ci provano, vediamo un po' se questa liga, come tutti pensano, poi alla fine è roba per due squadre o se invece abbiamo un'altra squadra che può fare qualcosa, insomma, sì. Sono già a meno 8 dal Real Madrid e sì, a meno 13 dal Barcellona, vediamo dove arrivano stasera. Mourinho continua ad andare a caccia con il gatto? Eh sì, c'è solo il gattone, non gli piace, in effetti il gattone in Liga ha fatto un solo gol, non è che viaggiamo su numeri spettacolari, è qua un po' il Calloni di origine algerina, insomma, più o meno. E così, sotto porta, ci prova, si muove, poi è anche una grande classe, perché insomma parliamo di un giocatore che era fortissimo, adesso infatti è un po' perso, non riesce proprio a imparare questo spagnolo, complicatissimo, lingua veramente che gli esiste. E niente, quindi lui sta lì col gattone, adesso praticamente ha come centravanti di riserva, usa Kakà, sì. Quasi per dar fastidio, cioè per far capire a Florentino che servirebbe un 9 vero. E niente, insomma, è un po' la situazione, non è, magari non pesa, però sì, è come dici tu, è che Florentino Perez si è fatto contagiare da Moratti, c'è questo fair play finanziario, dopo aver speso solo 350 milioni in un paio di campagne acquisti, adesso decide che non ne spende neanche più fuori una lira e magari, di mezzo un po' il mu. Magari sei guardato in tasca e hai detto, cavolo, non ne ho più. Sono finiti. Aspetta, si è appena comprato Iberdrola e Opsif, cioè due società tra le più importanti d'Europa, sì. In questo nuovo anno. E ma quelli stavano in un altro salvadanaio. Esatto, perché i soldi li ha spesi in altro modo. Esatto, ha deciso di spendere in un'altra maniera. Filippo, ti chiedo ancora questo, hai sentito che Mourinho è il primo allenatore del mondo con doppio incarico, no? Sì, no, anche no, io direi triplo, perché te dimentichi il Portogallo. Ah già, Portogallo, triplo incarico, è vero. Sì. Ieri quando io gli ho fatto la domanda che l'ho fatta io, lui si è un po' schernito, ha fatto, dice, no, io sono qui, sono da lontano, poi dopo ha dato questa risposta da fuori nell'azzurro, ha detto sì, uno dei miei club preferiti, ma in realtà come già aveva fatto sembrava essere la maglia sotto, è un grandissimo tifoso ormai, e insomma fa piacere avere un tifoso così, penso insomma, al mondo nell'azzurro, sì. E sì, c'ha doppio incarico, poi lo svolge bene, no? Mi sembra, mi pare di sì. La sua seconda squadra, no? Mi pare di sì, mi pare che lo stia, almeno in questo inizio lo stia svolgendo bene. Chissà se ci sarà una telefonata anche stasera. È partita alla grande, eh? Anche il Portogallo è ripartito alla grande. Sì. Questo Pavarotti rumorosissimo, però. Sento, lo sento, meraviglioso ma disturbante per le nostre lucubrazioni. Grazie Filippo, ti lascio a Real Madrid e a Mourinho e ci sentiamo naturalmente la settimana prossima. Io ho ancora 3 minuti e un paio di ascoltatori. Francesco da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. Due cose velocissime. Io sono tifoso del Napoli che chiama e abito a Bergamo da anni e anni e volevo soltanto dire che per noi tifosi napoletani fuori dalla campagna è difficile seguire il Napoli. Io ho avuto occasione a San Siro il 6 dove era vietata sia i residenti in campagna ma anche tutti gli altri devono per forza avere la testa del tifoso, con la quale ci vuole un mese per avere la testa del tifoso. Questa è una cosa che io penso che tutti gli altri tifosi in Italia fuori dalla zona di origine della propria squadra abbiano problemi a vedere la squadra e poi si lamentano che gli stadi non sono pieni. Seconda cosa, quello che voglio dire invece è ringraziare Fabio Quagliarella, tifoso del Napoli, perché a Bergamo l'anno scorso ci ha fatto vincere dopo 13 anni con un gol, che i tifosi napoletani a Bergamo e anche i tifosi napoletani a Napoli sono stati veramente contenti di vincere a Bergamo, che è una città molto accogliente, ma sotto l'aspetto invece calcistico ha molto da rimproverare. No, ma io credo che Quagliarella insomma non sia riuscito a dare di più al Napoli, ripeto, credo che abbia veramente sofferto troppo quella maglia e quell'ambiente, no? Credo sia stata quasi una liberazione per lui poter comunque andare a un grande club come la Juventus. Non penso proprio l'abbia fatto per soldi. Se c'è uno che veramente era legato alla squadra per cui giocava, forse troppo, era proprio Quagliarella. Fabio da Roma, buonasera. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono tifoso della Roma, mia moglie della Juve e mio figlio di 5 anni ogni tanto mi dice Forza Lazio, quindi sono disperato. Forza Lazio no, ma come? Penso che lo fate scherzare, ma non si sa mai, a 5 anni poi. Diciamo che non ha ancora l'età della ragione. Diciamo che ancora deve capire. Comunque io ho sentito l'intervista che avete mandato su Ranieri, ho sentito quello che lei ha detto di Ranieri Io non credo che lui stia facendo un braccio di ferro con Totti, credo piuttosto, come ha fatto l'altro anno nel derby, che voglia far capire a Roma, squadra, a Roma città, che non ci sono giocatori indispensabili, perché sì, effettivamente adesso ho visto la partita giovedì e la partita di oggi, sia Totti che De Rossi sono inguardabili, sono veramente inguardabili. Sì, però lei quante volte ha visto giocare Totti in condizioni pessime? No, io la seguo tanto tempo, era anche abbonato, per carità, quindi cioè, io, per me Totti è quello che dicono tutti, cioè è il giocatore più forte della Roma. Di tutti i tempi, solamente sì, che adesso ha 34 anni, quindi se magari 5 anni fa, è vero, lo mettiamo in campo in condizioni pietose e comunque faceva una bella partita, adesso non corre. Diciamo che prima Totti decideva lui quando giocare, cioè sempre adesso ha trovato uno che invece può pensarla diversamente. Resta il fatto che mettere in campo Totti al 90esimo della partita di oggi è stato una specie di schiaffo, di affronto, di chiarimento che penso proseguirà nei prossimi giorni, nelle prossime partite, nei prossimi mesi. Ci fermiamo qui e torniamo più tardi, dalle 8:30 alle 9, con il basket per capire cosa farà Dan Peterson. Anche e soprattutto sta perdendo al 16esimo del primo tempo la sua Armani Jeans 36-32 sul campo di Cremona, ma ne parliamo dopo.